Allora, buongiorno. Ma buonasera. Chiesa Rossa, puntata della ennesima giornata di quarantena. Anzi, ormai è finita la quarantena, no? Non ancora. Non ancora, però io ti racconto. Guarda, ho fatto un giro in bicicletta. Vai, raccontami. Ah, una bella bicicletta, peraltro, mi dicono. Ah, già, è vero. Una bicicletta bellissima. Te l'ho chiesta. Ma certo. Quindi, fondamentalmente, sembra che non sia successo niente. Mm-hmm. Fuori è pieno così. Giusto. Con dei semafori rossi, perché sono tifosi di zona rossa anche i semafori. Economia deve ripartire. Ci arriva una voce. Oh, voce! Ci arriva una voce. La voce. Qualcuno interno, molto interno, ha dichiarato che... Cosa ha dichiarato? Zona Rossa. Oh! È il programma... Oddio! Più bello. L'ha detto! Bentornati su Radio ZM 1801. Oh, mamma mia! Vi starete chiedendo, ma che questi qua alle 6, che ci fanno alle 6? Di solito... Che problemi hanno? Alle 7 e mezza. Di solito hanno problemi più tardi. E invece... Invece no. E invece no, perché oggi abbiamo avuto quella che si dice un'idea geniale. Non è vero, non è un'idea geniale. Questa è un'azione in stile Zona Rossa. In stile Zona Rossa, a gamba tesa, noi vi trasmetteremo un avvenimento importantissimo. Ah, certo, sì, tieni, Guglielmo. Faccio impercettibili segnali codici che in realtà potevo risparmiarmi e dirteli anche davanti ai microfoni. No, ma anche perché voi non avete capito cosa abbiamo acchittato per voi oggi. Un evento epocale, cioè la madre di tutte le risate. Spiegalo. La madre e il padre, perché ci piacciono entrambi. Quindi, alle 18 ci sarà questo bellissimo momento in cui le brigate... Sono le 18.02, quindi indietro nel tempo. Indietro nel tempo, esatto. Ci sarà questo bellissimo talk. Esatto, video live. È già cominciato, Guglielmo, ridammi il jack. No, adesso dobbiamo fare... Non puoi chiamarlo ora. Guardali. No, stiamo per trasmettere la talk ufficiale delle brigate di solidarietà d'emergenza in diretta. Oh, allora, iniziate o non iniziate con sta diretta? Dai però. Oh, fantastico. Allora, eccoci, ciao. Eccoci. Ciao. Va bene, allora Lorenzo vi ha fatto giustamente salire un hype della Madonna, che ci avete una scimmia sulle spalle che è un orangotango. E adesso lo spieghiamo. Allora, adesso è un po' difficile, tecnicamente complicato, però noi stiamo guardando in diretta il talk delle brigate in onda sulla pagina Facebook di Milano in Movimento. E anche tutti 12 voi. Esatto. 12. E quindi praticamente cosa succede? Che noi faremo quella cosa da bastardi maledetti, cioè noi commenteremo in diretta le cose che vengono dette, rendendovi impossibile capire il discorso in maniera completa, ma speriamo ammazzandovi di risate. Ora vediamo Leila, che con la solita professionalità che è tipica dei napolo-palestinesi. E con un montaggio, cioè una montatura di occhiali veramente orribile. Ma dai, poveri, no, no. Effettivamente è un po' eccessiva. Un po' eccessiva, è un po' tipo Crudelia de Mon, esatto. Una roba del genere. Però le sta bene. Sì, dai, ci sta. Un cappello molto mosso. Vedo un cappello mosso. Tu cosa ne pensi? Ne penso che diamo la parola a lei, dai. E salutiamo gli Underworld. Ormai va avanti da 2 mesi. E ci siamo interrogati come sito di informazione. Direi che siamo... Ah, ma lei no, lei si presenta come Leila di Milano in Movimento. Hai capito? Sta introducendo. Introduce. Che ci siamo posti. Benvenuta Maya. E ciao Maya. Abbiamo qui l'opportunità, insomma, di avere 28. Intanto questa fase, sai che fanno già più ascolti di Zona Rossa, Lorenzo, com'è? Bah, non ci vuole tantissimo, effettivamente. Probabilmente bastano le persone collegate su Zoom. Hanno collegato Zoom a Facebook, hai visto? Ma l'ho fatto. C'è lo sponsor Zoom. Sul territorio milanese, tante persone si stanno aggiungendo. Capoluogo è in salita. C'è una curva esponenziale di ascolto. Anche l'antivirus ci ha detto che non va bene qualcosa. Difficoltà di fronte troppe zecche tutte assieme, esatto. Possiamo benissimo affermare che il modello a un certo punto faremo anche un bel commento tipo zoomata mediocre, da un passaggio da uno all'altro. Dai. Si scaldano, li commentiamo però con Zona Rossa. Oh, ma Lorenzo, passiamo dalla pagina Facebook della radio e commentiamo con la cosa della radio. Ha lasciato il posto a una Milano dei bisogni. A questi bisogni, il discorso è pure serio, ragazzi. Hanno risposto le brigate. Salutiamo Paolo che è entrato. Oh, ciao Paolo. Ogni mio amico su Facebook verrà salutato malamente. 36 si sale sempre di più. Cuoricini e mi piace. Snellissimo entra in campo. Figa. Snellissimo. Beh, allora diciamo che chi ci sta ascoltando può interagire con noi, che interagiamo con la diretta di Zoom tramite la chat Telegram di Zam. Bravo anche per te. Però per favore, Leila, puoi abbassare la voce? Che fastidio la gente che parla in sottofondo. Madonna, manco se stai facendo una zoomata ufficiale per parlare delle brigate in tutta Milano. Questa cosa che ha detto Guglielmo non è stata percepita cosa, perché ci arrivano dei messaggi sul gruppo di redazione, noi li rifiutiamo e li rimandiamo al mittente chiedendogli di usare la chat giusta, che ricordiamo a tutti e tutte è su Telegram chiocciola Radio Zam trattino basso chat. Usatela. Prego, prego, il messaggio che è arrivato venga rimandato a quella chat e verrà letto in diretta. Esatto. Da redazione non si legge più niente, tranne le rivendicazioni. Discussioni sulle foto. Esatto. Prima domanda. Presenti a tutti i presenti, che è: perché avete deciso di fondare una brigata? Chiedo di iniziare a rispondere a questa domanda alla brigata Elena Modotti, diciamo distaccamento Rob the Mat, e di seguire. Ah, quindi la Elena Modotti è già divisa in due: scissionismo all'interno della sinistra. Ma scusa, ma dove? Solidarietà Giulio Popolare Paggio? Di Milano Sud, che pensini, Pedretti e Basaglia. Ma infatti, scusatemi, la Giulio Paggio dei ragazzacci veramente di strada. Guarda lì, grazie con Dio, tutte le tag. Grazie dell'invito, innanzitutto. Ma chi l'ha chiamata? Ah, giusto, è vero, l'hanno chiamata. Scemo. Quando cosa? Situazioni di emergenza, entrare in emergenza grande per realtà con le nostre sia. Fedino, che un giorno siamo sicuri ci importerà delle armi dall'Irlanda. Nel dettaglio la storia di Lambretta, nel dettaglio la storia di altri centri sociali in questa città, e la modalità dell'emergenza è una modalità che per noi vabbè, però lui legge, dai, io dici che vedi gli occhi che si muovono. Purtroppo no, guarda quando andiamo in basso, scusa. Cosa sta facendo? Sta spostando le punte dei piedi, Ma no, ma è al computer, Guglielmo, devi capire che Zoom è un po' ambiguo. Non si capisce mai cosa fai. Sessualmente ambiguo, intendo. Un sacco di gente ha pensato di te un sacco di cose che in realtà non hai fatto. Eh sì, perché? Perché sì, anche lui magari non sta leggendo e tu hai interpretato che stia leggendo, capito? Però lui diceva dove sta guardando, la telecamera più in basso di dove guarda lo schermo. Ma dipende da salute dove pubblica, cioè, tu cosa guardi, gli occhi di lui o qua per parlare? Io guardo lo schermo. Stare dentro, quindi vedono che spiove. Però vedi che lui invece Milano, la sappiamo, del suo è una città di grandi solitudini, una città di grandi cuore, ma anche una città di grande cuore, una città di grande coraggio, una città dove. Quindi nel frattempo sto cercando di Snello manda un messaggio sulla chat della talk. Raga, tutti insieme, ho i brividi, vado a spolverare. Un po' abbiamo immaginato probabilmente molto. Madonna Snello, ma il commento peggiore che si è mai letto negli ultimi 30 anni. Solo lui può fare una legge. Quella bandiera. Sarebbero venute giù le persone dai palazzi ad aiutarci. E continuiamo a ricevere messaggi dalla redazione sbagliata. Esortiamo a comunicare con noi direttamente dal Telegram della radio, che è Radio Zam trattino basso chat. Una situazione drammatica da un punto di vista innanzitutto sanitario, che chiaramente si è evoluta adesso. Forse ce la faccio. Una situazione drammatica da un punto di vista economico, ha pagato, è stato funzionale. Probabilmente chiudo con questa cosa qua: tra il pessimismo della loro ragione e la volontà. E l'ottimismo della volontà, la bilancia per noi è stata un po' sul bilancia secondo piatto, da ma sì, sì, così, voleva dire sagittario giusto la bilancia. Coraggiosa che sta pagando. Sai che quasi, io con questo sento... vi saluto perché purtroppo alla riunione della mia sottobrigata non posso stare oltre, vi ringrazio molto. No, abbiamo già il primo che abbandona, ma che tristezza. Ma quello chi è? Quello chi? Ma quello lì, Brigata Davide qualcosa? Ma chi è? Gimma? Controlliamo, controlliamo. Noi entriamo dal vi... Ah no, perché che scemo, non sono su Zoom, sono su una diretta Facebook. Ok, vado io? Ah, non faccio... ma no, certo. Ciao a tutte, tutti e tutto. Io sono Sofia e faccio parte della Brigata Ho Chi Minh. Ciao Sofia. Ciao Sofia. E salutiamo Nicolas che è entrato. Il progetto generale delle Brigate Volontarie per l'emergenza. Presente quello che fa i fumetti, che è amico del dopolavoro Stadera. Ma dietro gli è passata la ragazza dell'altra brigata? Questo, che però è su un'altra chat, su un altro canale Zoom. Vabbè. No, innanzitutto non ne sarei così sicuro perché ci sono molti pixel in realtà. Tutto pixelato. Sì. Come la loro è l'ultima che è stata creata, Laila, tra l'altro. In apertura, Milano è una città una delle per ultime, anni, una delle ultime. È quella che fa riferimento a Macao? Come la città modello, mi sa di no. Forse, non so. La città del benessere, sappiamo benissimo invece che ci sono moltissimi quartieri, moltissime zone che sono lasciate al completo abbandono, e sappiamo molto bene che anche noi stessi in un momento di emergenza di questo tipo possiamo sentire delle mancanze e delle necessità, quindi come noi stessi scoppiano noi i commenti sotto e persona, Isabella Cortese viene chiamata al comandante, ci sono appunto delle zone che attenzione chi viene chiamata comandante? Per cui appunto la Isa. Dalla commissione di persone che fanno parte del quartiere, di persone che hanno deciso di avviare il progetto anche in zona 4. Io come al solito vado di spam violento su tutti i gruppi. Assolutamente, qui siamo a 64, 64. Accorgendosi anche che appunto il vuoto che stavano lasciando le istituzioni, non solo il vuoto in un certo senso, ma a volte anche proprio l'apporto negativo. Ricordiamo molto bene tutta la campagna di Milano non si ferma. Ah, c'è un video che è uscito su quella campagna lì, che è stata una bomba, secondo me. Ragazzi, assolutamente, ragazzi, è stato rispammato e spammato a destra, a sinistra, e sopra, sotto, ovunque. Minchia, veramente vorrei trovare chi gli ha fatto il video a quelli là e gli ma che cazzo ti viene in mente? Ma che cazzo? Ma vai a lavorare, ma vai a fare il giardiniere. E adesso, infatti, iniziano a uscire altri video perché, ovviamente, tutti a seguire. Quello che diciamo sempre alle persone con cui entriamo in contatto è che quello che facciamo lo facciamo perché magari a un certo punto, in un momento, potremmo ritrovarci nella stessa situazione, quindi l'aiuto è reciproco, nel senso che quello che ci spinge a fare quello che facciamo è non tanto appunto un atto, cioè, fermi tutti, ma ragazzi, un modo per aiutarsi, cioè, e dovremmo spaccare la diretta anche, Zoom e telefonare a Leila e fargli la battuta che ci ha scritto Cesa, troppo geniale. Quindi appunto ma l'ho capito adesso, progetto, ma raga, non hai capito, si è deciso di avviare la brigata con i ragazzi. Noi stiamo più facendo pubblicità alla zoomata. Lascio delle brigate perché li facciamo parlare o facciamo più ciao roba? Ciao a tutti e tutti, cioè, grazie. Come siamo? Entra in campo Isabella. Isabella della brigata per rispondere alla tua domanda, la Guglielmo, in realtà nel senso che non si è capito praticamente niente tranne che 10 secondi esatto, mal cagati di tutta questa diretta, quindi se gli stiamo facendo pubblicità gliela stiamo facendo in modo sbagliato. Però sì, visibilità, come si dice, basta che se ne parli. Esatto. Giusto? Basta che se ne parli. Facciamo parlare un po' Isa. Cosa ne pensa? E per prima cosa ci siamo concentrati con i nostri compagni e compagne a risolvere, continuare a gestire l'emergenza lavorativa e comunque tutto ciò che è correlato alla crisi economica e all'incertezza che è generata da questo momento di crisi e che comunque sicuramente già esisteva, e abbiamo cercato di concentrarci sicuramente più sull'aspetto degli sportelli. Una volta che la situazione degli sportelli si è scaldata molto e le chiamate sono diventate davvero tante, abbiamo iniziato a conoscere le storie e le necessità delle persone che ci chiamavano e che tra chi era cassa integrato, chi aveva bisogno dei bonus, spesa e tante altre situazioni di disoccupazione molto grave. Abbiamo iniziato a capire, anche guardando il lavoro ottimo fatto da tutte le altre brigate in città, che era necessaria l'attivazione anche sul campo, che non bastava più il sostegno del nostro sportello e che bisognava poi agire portando alle persone conforto, non soltanto in termini di supporto lavorativo e sindacale, ma anche poi quello di risolvere l'esigenza primaria che avevano, che era quella neanche più di arrivare a fine mese, ma di arrivare a fine giornata molto spesso. E quindi con un'attivazione. Comunque io mi vado sempre in fissa cercando di guardare la stanza dietro la persona che parla. Beh, ma tu attenzione anche a questo, attenzione, perché vorrei leggergli il titolo del libro, c'è chi se ne cura e c'è chi invece no, e tu devi capire se quell'inquadratura è stata studiata oppure è in disordine voluto, nel senso che esiste anche tutta, cioè noi sabato sera con tempi diversi abbiamo fatto un quadretto in cucina che era uno spettacolo. Attenzione, momento di silenzio. Momento. Nel frattempo ricordiamo che Leila è la sorella di Luke e si parlano solo tramite Skype Walker. Esatto. Ringraziamo Cesa per le perle. Ciao a tutti, io sono Lucrezia e parlo a nome della brigata Shigera. Come nasce la brigata? Allora, la brigata nasce dall'esigenza di alcuni compagni del collettivo Shigera. Cacciavite e non di aiutare in maniera concreta durante questa pandemia. In che modo? Sentivamo la necessità di rispondere ai bisogni di chi troppo spesso viene. Perché tu che vieni dalla provincia di Novara lo sai dov'è il 22 marzo, no? Abbiamo trovato nell'autogestione la mia decadenza, imparare molto bene le strade. E dito che sei umido, non sei umido. Chi? Cosa? Che spesso si fa carico solo di chi già in realtà ne fa parte. E quindi anche per ottemperare anche a tutte le mancanze dello stesso, della politica istituzionale. Che però la montatura degli occhiali è migliore. Tutta una questione di montatura. Non è stato in grado di. A parte il fatto che tu c'hai la montatura alla John Lennon, che voglio dire, passata di moda. Vero, mi fanno vecchio, vero? No, io ci provo, perché sei brutto lo stesso. Da quando ho 14 anni che me ne danno 30. Poi io che do del brutto a qualcuno non si è mai visto comunque. Eppure, abbiamo iniziato con le spese e poi successivamente con le derrate alimentari. Ma quanto è bello il termine derrate alimentari, Lorenzo? Che, aspetta, traducimelo. Le derrate alimentari è proprio il furgone pieno di roba. Quelle sono derrate alimentari, certo. Quelle è gym, no? No, chi entra? Fermi tutti, parla Cico, bravo! Cico, è la prima volta che parla Cico, sono incazzato, Cicognini! Bravo! Per parlare della nascita della brigata, diciamo che è stata una conseguenza naturale. Sono sul tetto, minchia, quanto sono street, questa è voluta, questa è voluta. E anche riuscita. Ma quindi se urliamo abbastanza forte ci sentono da là? Che storia! Se no vi faccio vedere. Praticamente all'inizio dell'emergenza, poi... Gio, la bandierina rossa, fanculo tutti. Zona rossa. Più attivamente. Zona rossa. Portando avanti quelli che in realtà erano dei progetti partiti già precedentemente come... Ma sono con un telefono perché non può andare internet fino là sopra. Non può. C'è qualcuno che sale a ridere del nostro commento mentre parla. Aspetta, perché vuole farsi vedere in camera. Secondo noi comparirà qualcuno fra 5, 4, 3, 2, 20 famiglie a cui portiamo cibo e beni di prima necessità. Ma Cico, secondo te ha un auricolare nell'orecchio destro con cui Macio gli suggerisce cosa rispondere? Spesa, perché invece è più facile spottare i nostri, abbastanza. Mattia ha una bellissima felpa. E niente. Questo Isabella Cortese da oratore è passata, da oratrice è passata a spettatrice. Ragazzi, come quanto è stato efficace il discorso di Cigo? Tre minuti, bravo, bravo Cigo! Come ci piace. Brigata Davide Pedretti, siamo l'ultima brigata. Gimman ci parla dal Kenya direttamente. E, bella maglietta. Non è fare i progetti della Madonna in Africa? Infatti, che stanno chiedendo fa? Quello di passare dall'attività che noi facevamo quotidianamente nei quartieri, tramite lo sport popolare, tramite iniziative di mutualismo in quartiere, quella poi di trasformare questo impegno in un lavoro insieme alle brigate. Facciamo base in Cascina Torchiera, quindi nella zona in fondo a Viale Certosa, Cimitero Maggiore, Musocco, vicino a Quarto Giaro. E il nostro obiettivo è quello adesso? Di ovviamente in questo momento 65 insieme a tutte le altre brigate, quello di radicarci nel nostro quartiere, nel quartiere appunto a noi circostante. Quanti cuori partono? Una cosa bella, vedi, cioè tu immaginati la piantina di Milano, macchia d'olio, tutti i quartieri, poi ci stringiamo le mani, bravo, facciamo un bel cerchio, facciamo un giro tondo. Esatto, come dice Snello, riprendiamo il bellissimo messaggio di Snello. Vai Snello. Che è arrivato qua ai primissimi momenti di questa talk. Snello quando fa l'unione di movimento è veramente non ce l'ha fatta più e ha scritto: raga, tutto insieme ho i brividi, vado a spolverare la ghigliottina. Salutiamo che Vale che entra. Oh, ciao Vale. È una città, una Milano ritardo, che, però, che funziona veramente, non avrebbe dovuto aver bisogno delle brigate volontarie, avrebbe dovuto affrontare l'emergenza in maniera pronta, ma come non è stato fatto, siamo qui, siamo felici di esserlo e di essere dalla parte di chi ha bisogno e continueremo a esserci in qualunque momento. Capitano, mio capitano, attenzione, attenzione, parole grosse, parole bellissime. Buono, parole grosse. La brigata grande Netball, la mitico. Brigata che Pensimi nasce principalmente dall'esperienza di Partizan Bonola e Sara al Galla, che sono due realtà operanti nel quartiere Galatese, sono arrivati i problemi tecnici, dovevano arrivare prima o poi non erano ancora arrivati Dark Fener praticamente, esattamente, e non siamo noi. Adesso, vediamo se riesco a fare la colonna sonora di Star Wars con la bocca lasciando che si senta quello che dice. Mi sta chiamando George Lucas per andare a fare il rumorista in Final Fantasy X. Aspetta George un attimo. Snello arriva tardi con un like per la maglietta. La maglietta di prima ovviamente, anche questa qua no. Ma raga, qualcuno gli può dire che c'ha la voce che gracchia per schifo? Ma sai, non possiamo vedere la chat di Zoom. No, ma non noi, dico loro, tra di loro. Certo, glielo diranno. Teo, allora, si sente male, grande Giada, 10 punti. E Giada secondo me ci sta ascoltando, ha detto dai, lo faccio io per quelli di zona rossa. E ci è sembrato molto naturale, quindi quello di iniziare in questo modo la collaborazione con le altre brigate. Vorrei dire che anch'io una volta ho avuto in casa le lampadine che ha alle spalle Jacopo. IKEA. E poi com'è andata? È andata male. Istituzioni che non sono arrivate pronte in questo momento storico rispondere a certe esigenze, e quindi l'abbiamo dovuto prendere in mano noi. Anche lui è molto breve, più bravo, o meno, più o meno. Non fate finta di aver capito, perché si è capito poco e niente. Brava, brava, viva l'onestà. Brava. È importante ripetere, un minimo. Una giornalista con un'etica. Un minimo. In un altro posto, però si sente male. Prova, ma... fai. Già. Si già. Meglio adesso, ma pensa no? A te. Sì. Chissà perché poi, perché voglio dire. Vai Jacopo, ripetiti. Ci dice no, un no, secondo. Vai tu Leila, vai, passa con la prossima. A gesto. Va bene, allora ci rimane. Ma quindi cosa hanno fatto? Hanno messo una telecamera che riprendeva la cosa Zoom e trasmetteva su Facebook? No, penso che sia un servizio di Facebook del Capitale che fondamentalmente ti permette di streamare qualsiasi room di un qualsiasi applicazione che fa questa cosa. Gizia, stessa cosa. Ho visto che usano anche un'altra applicazione con un'altra icona che non è Zoom, non è Gizia, è un'altra ulteriore. Per esempio per un gruppo di psicologi e psicologhe e psicoterapeuti che fanno riferimento all'ambulatorio popolare di Milano di Via dei Transiti, per, con una proposta, quella di attivare appunto un progetto di una brigata che non è fisica, non è legata a un territorio, ma è una, legata di, una brigata di ascolto appunto sulla questione psicologica, nel senso che si è capito che, come molti interventi hanno giustamente detto prima di me, tutta questa crisi sanitaria ha visto correlarsi di tantissimi altri problemi appunto sociali, economici, cioè una crisi veramente da tutti i punti di vista, e quindi ovviamente anche una crisi del pensiero, anche capire una crisi dell'amore, che sarebbero sorti sicuramente anche problemi però, legati, però secondo me la crisi dell'amore emotiva, ma neanche tanto, pensa quanti preservativi in più venderanno in questo periodo, magari di gestire alla fine, dai, sei in casa con la tua compagna, il tuo compagno o tuo compagno o la tua compagna, in caso tu sia omosessuale, cazzo, vorrei usare situazioni complesse familiari, perché discorsi seri, discorsi seri. Anche studenti giovani, studentesse sono stati costretti a tornare magari nelle proprie case, e quindi una serie di situazioni che si sarebbero amplificate tantissimo. Quindi abbiamo accolto questa proposta e abbiamo creato, diciamo, un canale di perché dove iscriversi. Abbiamo raccolto veramente tantissime iscrizioni e abbiamo attivato questo numero, appunto, che funziona dalle 8 del mattino a mezzanotte. E al quale rispondono dei volontari che sono stati formati, dei volontari e delle volontarie, e qualora ce ne fosse bisogno passano la chiamata a uno psicologo o una psicologa. Diciamo che ovviamente, cioè, le problematiche a cui siamo andati incontro sono numerose, sono tutte legate in maniera complementare al periodo che stiamo vivendo, alla crisi economica, tantissime ansie legate al futuro o all'incapacità di gestire il periodo a casa, appunto. Quindi questa è stata una bellissima occasione anche per sperimentare. Ha delle mani enormi, come Gianni Morandi quando era giovane faceva il portiere, sul tema della cura, diciamo, e dell'ascolto, che è molto dibattuto, e speriamo di riuscire a continuare questo. Salutiamo Tommaso Russi, gli facciamo tanti auguri perché oggi è il suo compleanno. Buon compleanno. C'è qualcuno che gli ha mandato un audio molto bello stamattina, dopo lo mettiamo. Dai, cioè con la fine, diciamo, di questa, poi avviso i nostri invitati di dopo. Va bene, grazie intanto 78, a tutti 78. Per le vostre risposte. Minchia, continuano a salire. 79. Ci tengo un attimo a sottolineare il fatto che è importante, insomma, il vostro ruolo, quello che state facendo, e soprattutto è interessante il fatto che vi distribuite sulla città di Milano in maniera eterogenea, che questa restituisce anche una narrazione complessiva di quello che si muove sulla metropoli. Anche perché, come salutiamo Lara, sappiamo, che entra. Oh, ciao Lara. La realtà milanese cambia drasticamente da un posto a un altro, quindi insomma una vi ringrazio cifra. E passerei alla seconda domanda, che è per un zona po' rossa. Più nel dettaglio, ah, no. sempre rispetto alla quanto sono belle le vostre dirette, operano dove si possono trovare i podcast, guarda su Archive, ovunque. Farei esatto. Rispondere questa domanda alla brigata Elena Modotti, alla brigata Che Pensimi, Franca Rame e Ho Chi Minh, e vi ricordo solo di cercare di rimanere dentro un minuto e mezzo perché altrimenti devo rispondere, finiamo domani mattina. Sono qua. trova anche un accendino. Ciao a tutte e a tutti. Olè. Allora, sulla composizione della Brigata Elena Modotti. La Brigata Elena Modotti è partita, diciamo, con pochi mezzi e poche persone ed è divenuta sempre più numerosa. Ad oggi conta circa, se non più, 140 volontari tesserati. 70 avanti brigate, vi amo, grazie. Nuovi commenti sotto la talk. Circa 40 studenti per quanto riguarda appunto l'emergenza nella consegna dei pacchi. Giusto per dare qualche dato in più, sono stati consegnati sino ad oggi più di 3.500 pacchi, 3.900 nuclei familiari a cui appunto abbiamo dato un aiuto. E grazie alla disponibilità di Rob De Matt, 2200 pasti caldi ai senza tetto. Ciò che stupisce è che la composizione è variegata ed eterogenea. Madonna Guglielmo, grazie. Solo da cose importanti che succedono, militanti, ma da lavoratori funzionante. Che in questo momento sono o in cassa integrazione completa. Comunque, pensandoci bene, Guglielmo, questa cosa è veramente, veramente molto, molto funny, molto carina, di mandare qualcosa che c'è già e commentarci sopra. Pensiamoci per un zona arancione, un zona blu. Bravo! Ma perché dopo la fine della quarantena noi cambiamo nome? Ma no, no, noi andiamo avanti perché secondo me l'emblema zona rossa è... cioè, nel senso, né è già emblema, né comunque, io né te, né, non so, i nostri genitori, ma qualcuno di noi ha mai vissuto un'idea di zona rossa? O una zona, no. Tu hai mai vissuto una zona rossa? No, quindi nella nostra mente si è innestato questo concetto che esiste un momento in cui lo Stato, gli organi statali e tutto il resto si ferma per delineare un confine rosso, rosso come il panico, rosso come il divieto. È interessante, nell'immaginario futuro apparterrà anche a chi non l'ha vissuto sulla sua pelle perché è fresco, capisci? Quindi perché quel programma fra 3 anni si chiederanno si chiamava zona rossa? Ovvio, perché in quel periodo era zona rossa. Nei libri di storia verrà scritto zona rossa. Capisci? Ma non per parlare della trasmissione, ma no, capito? Ma, cioè, ma come no? Ma non siamo già diventati di importanza storica per il mondo? Io mi scuso ufficialmente con il mondo, con quel mondo villano di Riccardo Badagliacca per aver erroneamente sbagliato l'orario del post sul nostro splendido e scintillante e impeccabile canale di Telegram che è Radio ZM. Vi consiglio di iscrivervi. Niente, lui non vuole funzionare il microfono. No, non funziona il microfono proprio per niente. Poveraccio, perché è un ragazzo anche molto simpatico, ha un sacco di cose da dire. Il lavoro del Gallaratese è veramente fantastico. Ma no, mi stavo chiedendo un'altra cosa assolutamente inutile, giusto per coprire questo momento in cui c'è più o meno tipo un'arancia spremuta che sta parlando. Diamogli 5 secondi. Siete proprio di merda. Sembra proprio Robocop. Bravo, Robocop. Registrato male. Bravo, registrato male degli anni 90. Tipo in bagno. Dalla regia pubblica, Riccardo scrive che è il suo microfono falso contatto. Quindi abbiamo dei tecnici espertissimi. Che salutiamo Riccardo. Salutiamo Riccardo. Invece, continuo a scusarmi sempre appunto con il nostro redattore capo Riccardo Badagliacca. Ah sì, redattore capissimo. Quindi oggi sono entrato a gamba tesa sui post per sponsorizzare questo atto ignobile che io e Guglielmo stiamo portando avanti nei confronti di tutti i compagni e compagne. Come sempre, al posto di disturbarvi uno a uno, a sto giro abbiamo deciso di fare questa cosa qua. Disturbarvi tutti insieme, esatto. Diglielo, Leila, non si capiva una minchia, porca madonna. La prossima domanda provi a rispondere chiudendo il video, che magari migliora la connessione. No, penso sia un problema di computer, mi esco e mi riconnetto. Ma ora funziona! No, ma funziona, ora funziona. Adesso. Zio, rimani. Aspettiamo. Diteglielo. No. Intanto... Oh, comunque il disguido tecnico per ora è la cosa più divertente, allora, che sta capitando. Sì, ma dal governo al peggiore dei peggiori. 60 volontari divisi ovviamente nei 4 ce l'ha, ruoli. Ce l'ha, Isa ce l'ha. Cosa gli hai detto? 70 volontari? Sì. Sti cazzi. Chiaramente abbiamo iniziato a collaborare entrando poi in sorellanza, direi così, con la Brigata Elena Modotti. Brava. Le raccolte alimentari fuori dai supermercati, chi fa le consegne dei pacchi e chi li assembla. E, tendenzialmente la composizione è sicuramente, c'è una parte di persone che supermercati andranno a fare politica, la raccolta loro. Pensiamoci bene, allora lì ci sono dei svariati Carrefour, lavoro, mini piccoli market. E poi tipo di grandi store come i nostri servizi a Missaglia o altre cose. Farini. Sì, esatto, devi andare in via Farini. Che aspettano, bravo, spero, non è, dell'Inps. Poi abbiamo studenti universitari, però studenti non è così lontano, anche attori, però amici, dalle foto che vedo e da racconti sono molto spesso in macchina, largo, che hanno dato disponibilità appunto perché anche la condizione, effettivamente solo noi siamo così retrogradi che andiamo solo a piedi, ma in realtà secondo me questa cosa è interessante nel momento in cui si dovesse ipoteticamente pensare di fare anche una sorta di non tanto inchiesta ma semi racconto o comunque report di quello che è il quotidiano di ogni brigata. Ci sono delle sfaccettature infinite perché dipende dai quartieri. Certo, ne parlavamo con Iaffi, che salutiamo. Ciao Iaffi. Proprio stamattina, che ogni quartiere all'interno di Milano è circoscritto a delle dinamiche di quartiere proprie, che sono diverse dalle dinamiche di quartiere di un altro. Più stiamo entrando in contatto, torna in campo Sofia. Siamo alla seconda domanda, vero? Ci è sfuggito qual era, però forse ce l'abbiamo appuntato d'altro quello sicuro, però è per fare anche un rapido timing. Timing. Mica quanto sei bravo a dire timing. Dall'inizio sicuramente ci sono persone che hanno fatto parte di collettivi piuttosto che organizzazioni politiche. Però è molto bella la commissione che si sta creando anche con ragazze e ragazzi che vivono nel quartiere, che semplicemente abbiamo incontrato durante questa attività e che si stanno aggiungendo. Per noi questa commissione è molto importante. Tipo, che retroterra la tua brigata? Quello che si sta cercando di fare, ovviamente, è da dove arriva la gente che fa la brigata. L'attività che facciamo riuscirà a parlare di temi come appunto questioni di genere, ma perché, oppure questioni di antifascismo. Lì per esempio per loro è interessante perché essendo a Macao in un certo senso hanno tutto un circondario, a meno che non siano migrati via, di studenti che popolano gli appartamenti intorno a Macao. Io almeno nell'elenco della mia rubrica, non mi ricordo mai come si dice, tu chiamala elenco telefonico, ho un sacco di persone che abitano in quella zona. Che ci sia uno scambio, quindi ci sta, ti vedono ragazzi giovani, tiri in mezzo, no? Viene a fare volontariato e via, viene a spacciare un po' di morte. Volevo dire nel momento in cui ci sono volontari e volontarie che magari non sono mai stati a contatto con situazioni politiche, vanno in un quartiere e ne leggono le problematiche o le sfumature appunto di povertà, viene in maniera naturale parlare di determinate cose. Per cui la cosa che ci interessa molto è che attraverso l'attività che stiamo facendo e il raggiungimento di persone diverse riusciamo appunto ad affrontare diverse tematiche. Ovviamente ricordo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che se qualora volessero mandarci un messaggio per indirizzarlo a questa talk, noi hackereremo il sistema e compariremo con un ennesimo blocco tutto rosso e faremo una domanda con i microfoni altissimi. Minchia raga, attenzione, sono crollati gli ascolti di brutto. Attenzione, perché stanno migrando su zona rossa. Ma sicuro. Allora io chiederei alla Brigata di Solidarietà Popolare di Milano Sud, Bella! Sighera, se hanno voglia di raccontarci un episodio che, ma va, dai, che vi ha particolarmente colpito, insomma. Cigo, che c'è un cane tutti i giorni a Zam. Cigo, parla di Hank, che alziamo gli ascoltatori. Vai. 71. Madonna. Okay. Cigo, allora, lascia la parola agli altri compagni e compagne. Madonna, che uomo. Quanta umiltà anche, altissima. A Milano Sud sta già nuotando, sembra luglio. Scontrare, che è stato un po' uno schiaffo dato dalla realtà. Il secondo invece è... Spero di no. Schiaffo sociale che si è creato con le persone che risalgono le bombe. 77, c'è stato un momento di down, ma la diretta riprende e supera quasi il suo limite di 75. No, erano già arrivati 82. 82, perfetto, quindi il nuovo limite 82. Mi piacerebbe raccontare che io ho questa signora che tutte le settimane, più di una volta alla settimana, mi chiama, spesso anche solo per sapere come sto, o la chiamo io per sapere come sta, e se ha bisogno il giorno di Pasqua mi ha chiamato per farmi gli auguri di Pasqua. In realtà secondo me è un po' anche il senso di fare solidarietà, aiutare gli altri, ma anche aiutarli non solo facendogli la spesa, ma anche nel momento in cui hanno una difficoltà emotiva, una difficoltà, si sentono soli molti. Per cui secondo me questo è anche il preparo il cuore per Cigo. Vai, grande. Non lo vai a pigiare, non so se si sa chi è, capisci? Non lo so. Quindi voglio che lui sappia che sei stato tu. Più bella che mi sta succedendo. Eccolo. Arriva. E lui? Io invece non parlavo di un episodio in particolare. Penso che la cosa che ha colpito ma al contempo un po' ce l'aspettavamo, conoscendo il territorio. Guarda di cui facciamo parte, come si muove, sembra i volontari, le volontarie della mia brigata, che cuore che saltano per cibo, estrema solidarietà da parte. Ascolti, crollano, però. Che è un quartiere di certo non tra i, quelli che sono i due quartieri non, di certo non tra i più ricchi di Milano. Ma come no, c'è un benessere qui, con i supermercati. Ah, beh, l'auricolare è quello zona, collegato al telefono per ascoltare. Trovi persone che non possono fare che spese genio. Grosse perché banalmente non hanno i soldi per fare queste spese, nonostante questo trovano sempre qualcosa da donare. Bravo, Cigo, diglielo, il popolo a Milano Sud è unito. Di questi, di banchetti o cucinatelli, penso che questa è una cosa che ha toccato particolarmente tutti e tutte, in quanto appunto ce l'aspettavamo, conosciamo il nostro quartiere, ci lavoriamo da tanto nel nostro quartiere, ma comunque grande, ci rende veramente molto felici. Mattia sta pensando quando è che si fanno gli espropri. Posso aggiungere una cosa brevissima? A me ha colpito anche dall'interno il clima positivo che si è creato tra, diciamo, le varie realtà politiche, la voglia di fare, impegnarsi giorno per giorno, una situazione eucaristica, insomma, magari in tempi normali avrebbe richiesto tempi molto più lunghi, invece in pochi mesi si è costruito questa importante realtà. Ottimo, bravo Tia, bravi, bravi, ragazzi, bravi compagni, bravi, staccate tutto, dai, dai, chiudiamo tutto, la basta. La seconda domanda, ce ne andiamo così perché va bene così. Quarta, comunque. Diciamo che ha sempre caratterizzato l'agire di realtà auto-organizzate dal basso, e in questo momento è super preparata. Mai. Adesso vorrei chiedere alla Clara, della Brigata Basaglia, qual è il sentimento Basaglia, che hai percepito Brigata Basaglia delle persone la ticinese, dov'è, con cui siete entrati in contatto attraverso la vostra brigata? Andrea Di Mim è stato messo lì a fare il sovrammobile, con dietro un sacco di bottiglie di birra. Già precedentemente, cioè prima che nascesse la Brigata Basaglia, attività di centralino, e poi con la Brigata Basaglia diciamo che si è incentivata questa cosa. Sicuramente la questione della solitudine tantissimo, e ovviamente il fatto che moltissimi problemi sono correlati, quindi abbandono, perdita del lavoro, piuttosto che vivere in un contesto sociale. Allora, mi pare di aver capito che c'è qualcuno che ci sta ascoltando, questo qualcuno esiste, che ci sta ascoltando, chiediamo quale sia il nome della Brigata Ticinese. Ci sono lui lo sa, esatto. Della lui lo sa, sto parlando proprio di lui. Andando in giro lui che non è lui, ma che non è lui. Lui è lui, quello di fianco a me. C'è un altro lui, c'è un altro lui. Che è un insider. Veramente a se di Milano in Movimento. Va come se la sfumazza la Laila, vai e via. E quindi questo. Poi il fatto che, appunto, l'incertezza di molti ragazzi precari, tra virgolette, di non bello sapere questo effetto di Davide della Manona, mi sa che lo adotterò anch'io. Sì, anche dopo mi è capitato di rispondere Manone, a una ragazza Manone, che era in preda a un attacco di panico perché lei era costretta a casa, cioè studentessa, costretta a casa con la famiglia. Si aggiunge Luciana De Angelis con il ragazzo molto lontano, un sacco di tatuaggi, costretta ad andarsene. Adesso magari anche, è entrata anche Lula, magari vi, capito, vi racconta ma anche lei. Salutiamo Marta che è entrata specifiche. Però quello che davvero mi ha colpito, Marta, era proprio questo sentimento di solitudine, scusa, di non riuscire Marta a capire. No, Guglielmo sul pezzo oggi. No, ma pensavo questa Marta, quella è la questione. Ciao Marta, in realtà è più piccola, è Martina. Vi facciamo salutare da Martina, la voce più soave di Radio ZM. Che andiamo a costruire, cioè che cosa, che veramente sono veramente importanti. Suavissima. Suavità. Viviamo dentro a delle reti, a volte non ci accorgiamo di questa, di quanto siamo veramente fortunati. Moltissime persone non hanno questa fortuna, giusto, quindi hanno bisogno, magari si vergognano, non hanno nessuno a cui raccontare le proprie problematiche, quindi sia stando sulla strada che ascoltando, cioè io ho percepito proprio questa cosa qua. E poi magari adesso Lula vi spiega anche nel dettaglio. Comunque Lorenzo, Luciana è entrata per parlare. La domanda era quali sentimenti si è provato. Luciana, la conosco. Dalle comunque, ragazzi, vai, scusa. Mi è stato chiesto di montare un video, una sua intervista in questi giorni dalle brigate, tagliuzzarlo un attimo. E l'ho vista in un'intervista, se non sbaglio. In riferimento è entrato Fergi. Salutiamo Fergi. È entrato a fare Fergi. Dai, ma levati, che non è un video in cui si assemblano carrelli per farci i cestini per i banani. Dai, mi spiace, Fergi, sbagliato. Che sta accadendo nelle case delle persone che vi chiamano? Proprio delle persone che vi chiamano, insomma. Ok, allora sono magari offerte per creare piattaforme nei commenti, così non entro come una sconosciuta. Io sono Lula, sono ciao Lula vero, e Luciana, con una psicoterapeuta. E che veramente, che bei tatuaggi, vero? Super neri, spaccanti brutti. Sono a Milano. Intanto arrivano messaggi: siete una ricchezza per questo paese. E non, scusate, non una zona rossa. Maria Vittoria, grazie per aver brigato. Se fai quel gesto, ci fucili le orecchie. Fisicamente possiamo creare una rete un po' più elastica a livello proprio di spazio, no? E, ma sicuramente l'entrare nelle casse delle persone, non fisicamente al telefono, entrare nel mondo, ma è anche latinoamericana delle persone, sì. In questo momento è un qualcosa di molto complesso, quel fonema cassa lo dicono sempre i latinoamericani, un'emergenza proprio di affetti che è imminente. Attimo, Martina sta litigando con le cuffie qui in relazione. Attenzione, arrivano messaggi super tecnici da Stefano a tutte le brigate. Se volete formare digitalmente aggregazioni come gruppi MIM su timerpublic.com, fatemi sapere, vi aiuto a valutare piattaforma. Salutiamo il grandissimo, non posso dire il suo nome e rimarrà Arcadia per tutti e tutte. Vi consiglio di seguire il suo profilo perché è un ragazzo veramente molto in gamba sui disegni. C'è un gatto. Ci fanno notare dalla regia che c'è un gatto che è comparso sullo sfondo della inquadratura migliore di tutte le zoomate che ho visto in vita mia. Beh, sì, diciamo che il centro dell'inquadratura perfetta è la sua spalla sinistra. Abbiamo un buon rapporto, che capito, c'ha gli occhi tagliati, sarebbe tutto. Sarebbe male vederlo in faccia. Non è sano psichicamente passare 24 ore su 24 con una persona con una psicoterapeuta così, quando non so, sei un po' triste, non capisci, una cartella ti tira, che va a svegliare nelle persone una sensazione che prima era di angoscia, poi è passata per la tristezza, poi è 79, ci avviciniamo al limite, nuovo record, forse nuovo record. Comunque è strana sta roba che sale e scende, se non diamo un spazio, gente che preferisce ascoltare Zona Rossa. 80 quindi ormai dobbiamo spiegarlo, il giochino è questo: tu accendi Facebook, guardi ma ascolti noi, cioè stacchi l'audio e ascolti la radio dal tuo telefono, ascolti l'audio mentre ne parliamo. Ma questa cosa purtroppo arriva 10 secondi dopo. Siamo nello spazio emergenza, cioè, ma quindi noi siamo, cioè, le nostre voci arrivano 10 secondi dopo rispetto al video? No, tutto il malloppo arriva 10 secondi dopo. Ah, ok. Ovviamente. Perché è l'audio. Certo, l'audio. È qua con noi. Loro sono qua con noi. Sì, vai, ragiona sulle possibili potenziali fisiche e quantistiche di questa variabile. Qualcuno vuole comprare un essere umano di 70 kg di tristezza? Ecco, vedi, portati in giro. Ero 72 a Natale, ora sono 65. Sei 65, veramente? Ogni operatore male. Vabbè. Facciamo mangiare dei sassi per appesantire. Un corso di formazione, no? Ma non solo quello, sino che ogni intervento che fa porta tanto di sé, no? Cioè, per cui di quelle che sono le mie risorse, di quello che è. Io posso fare per te, cosa non posso fare per te, come mi attivo, a chi posso chiamare, per cui è veramente un potersi appoggiare nella rete dell'altro, cioè io mi trovo in una situazione dove non so dove mettere tutto ciò, il mio appoggio c'è in qualcuno che in questo momento sta condividendo questa situazione con me, e per quello che la brigata è fatta di operatori e non da psicoterapeuti, cioè non da tecnici. Okay, il psicoterapeuta arriva in un secondo momento che per un ascolto molto più specifico, però tutta questa situazione non potrà mai cambiare se non si parte dall'uguaglianza, dall'essere uguali, scusami un po' la parola un po' spagnoleggiante, però cioè, ci sta, cioè nel momento che tu senti che l'altro è uguale a te, che l'altro percepisce quanto te, a quel punto io mi sento più forte e posso andare avanti, per cui non è un momento di clinica, è un momento di stare con di creare rete, no? Un momento di stare con chi è uguale a te. Cuoricini che saltano. Non ho ascoltato la prima parte, ma la seconda mi è piaciuta molto. In questo momento, no? Diventa difficile commentare in diretta discorsi che vuoi seguire. Ma perché loro hanno un ritmo troppo serrato. Grazie, Lula, è stato... Scusa, molto se vuoi dire qualcosa, prendi il microfono e parlare. Te lo dici. Restituzione. No, è talmente bella questa cosa che stanno facendo, secondo me, dell'ascolto, anche se sono operatori e dopo, al secondo momento, arriva un operatore. Dobbiamo anche prenderci un po' il diritto di avere paura. Come una psicoterapeuta, una psicologa, eccetera. soprattutto in una, che, in una situazione di precarietà così, fa capire quanto la sanità mentale, la salute mentale sia effettivamente importante, e quanto sia invece la creazione di reti, dato che si parla di sanità pubblica, molto difficile averci a che fare, perché molto privatizzata quasi totalmente e con tempi di attesa estremamente lunghi. Adesso vorrei chiedere quindi tutte le persone che non possono permettersi lo psicologo o una cura per la propria psiche rimangono da sole, un po' senza. Invece in questo periodo si sono attivate. Io spero e spingerei affinché invece questa cosa succeda sempre, cioè non con questi operatori poveracci magari, però che il mondo della psicologia, della psichiatria si muova in questo senso. Si sdogani più alla... al quotidiano delle persone, che non sia così inaccessibile. Io la trovo inaccessibile. Io per sì, è un servizio, è uno dei tanti servizi che andiamo a chiedere al posto dell'economia, al posto del vostro vile denaro. Le brigate molto in fretta abboneranno le borse della spesa e imbracceranno gli mitragliatori. Intanto mi scuso per questi rumori molestissimi di fondo, ma il mio computer, che quando si emoziona partono le ventole. Chiaro, vero, c'è un phone acceso, cioè, sgradevolissimo. Capisci? Sgradevolissimo. Lo sentiamo nonostante le cuffie? No, perché lo senti in cuffia, perché entra nei microfoni. Ah, dici che entra nei microfoni, sto facendo sento di me. Soprattutto anche no, è una merda. Sì? Per non a me sì, allora entra solo nel mio, perché è molto sensibile, mi allontano. Hanno cercato di tenere tutte le fabbriche aperte, quindi mettendo lavoratori a rischio di contagio, ma a rischio stesso di vita. E un'esemplificazione è la zona, per esempio, della Bergamasca. Per quanto riguarda invece il discorso della regione, beh, il nostro giudizio come Elena Modotti è assolutamente negativo. È negativo per molteplici motivi che possiamo elencare, dalla gestione delle RSA, in cui i malati Covid sono stati introdotti nelle case di riposo, alle poche misure precauzionali che sono state indicate nelle strutture ospedaliere al personale medico, ma anche ai medici stessi di base. E poi all'assoluta insensatezza degli ospedali non operativi o praticamente quasi poco utilizzati come quello in fiera. E tutto questo cosa ci fa pensare? L'ospedale in fiera è una roba di rara bellezza, ma veramente di quelle scene del grottesco che nemmeno Zona Rossa poteva arrivare. Ricordo ancora il giorno in cui andarono lì sotto, staccandosi da tutto quello che era un normale iter burocratico per accaparrarselo, dicendo: no, è così, si fa, basta, ci mettiamo la faccia, ci mettiamo i nostri soldi, lo facciamo. Fontana ha pagato, ha tirato fuori la scheda e ha detto: assurdo, faccio il bonifico. Facciamo leva su questa cosa della regione, esortiamo allora, tutti e tutte a riflettere. Io credo che i compagni della brigata Elena Modotti abbiano riassunto bene, quindi anche per non ripetere. Tanto noi perdiamo qualità, Isabella è diventata un pixel unico. Praticamente ci sono solo i pua. Sono tre pixel, uno rosa e due gialli e neri ai lati. È una maglietta, ma si dice tigrata e non la vediamo mai. Però ora si legge il titolo del libro, è Out Out di Kierkegaard. Ah no. Ci auguriamo che avvenga un commissariamento della regione e che il primo terreno di lotta appena sarà possibile uscire per le Davide strade, Salvadori, bravissimi, scrive nella mente, chat della Talk mente palesemente salutiamo Davide, più di 10.000 morti. Ricordiamo anche, appunto, come già citava qualcuno prima di me, la terribile nefasta campagna Milano non si ferma, che fu appunto lanciata nel lettere del web dal sindaco Beppe Sala, che sicuramente è stato un errore strategico non indifferente, che ben rispecchia il tema che tutti noi un po' stiamo attraversando, che è quello di questa invincibilità di questa città che si deve muovere, deve correre, deve fatturare, che non si può fermare. Beh, e invece fatturato sì, importante, si è dovuta fermare e l'ha fatto anche a caro prezzo. E in questo senso noi come Camera del Non Lavoro siamo estremamente critici anche rispetto a tutto quello che è stato il grande universo degli ammortizzatori sociali e dei sostegni, che non sono stati assolutamente sufficienti, molti non sono neanche ancora stati erogati dopo mesi di emergenza. La situazione è totalmente ingestibile, incontrollabile, e l'emergenza sociale esploderà in maniera durissima, e quello che noi cerchiamo di fare non è quello, scusate se mi permetto, ma non è, come dicono alcuni, quello di placare gli animi delle persone incazzate, ma è anzi cercare di spiegare che tutta questa rabbia va poi a un certo punto incanalata, sappiamo chi sono i responsabili e formeremo una rete di lotta che insieme a tutte le persone che abbiamo incontrato e conosciuto in questi mesi andrà a chiedere conto. E Zoom si infiamma, esatto, così tutto, Madonna, che saluti e parole, che parole forti. Saluti ad alcuni compagni e compagne di Milano e di Interland. Sufficienti né degni per poter vivere una vita in questa città e in altre città della Lombardia. Insomma, io credo che l'elemosina di Stato non basti. Il Salvadori sembra tipo quello che sta nella folla dei primi americani. Per bravo, questo il giusto! È uno strumento, esatto, importante, uno strumento di lotta, perché cerca di non lasciare indietro nessuno e cerca di riconnettere il terreno e il territorio che è stato altamente sconnesso e frammentato da una terribile gestione delle istituzioni nazionali, regionali e comunali, per non parlare del IMSS. Per non parlare del dell'IMSS. Ah, dell'IMSS. Se vuoi rispondere. Sì, vado io. Mi trovo completamente d'accordo con l'ultimo intervento che è stato fatto, quindi non aggiungerò molto. Attenzione, connection, generale, connection. Ovviamente qui anni di tagli. La questura sclera, non capisce più, le alleanze di movimento, oh mio Dio. La privatizzazione della sanità, come avviene per tantissime altre cose, per l'istruzione, la scuola, hanno portato certo Napoli-Milano è andata e ritorno, che si complimenta con l'obbligata Francarano, corrotta, limitata e in molti casi anche lei sta leggendo, dai, dell'emergenza sanitaria. In questo caso vorrei fare un piccolo spot, vi indico a tutte e tutti coloro che stanno ascoltando di seguire la campagna Ora a casa restateci voi, che è una campagna per dare solidarietà ai medici e al personale sanitario e per chiedere le dimissioni di Fontana e Gallera, che sostegno doveroso alla campagna, anche creare delle connessioni fra tutto il personale sanitario che in questi mesi è stato in un certo senso quasi in trincea, sì, e tutto quello che stanno facendo le brigate è fondamentale. Poi sicuramente, come diceva Isa, il fatto che non ci siano stati degli aiuti, e quelli che ci sono stati minimali. Pensiamo appunto alle persone che si sono dovute ritrovare a pagare bollette, affitti, senza alcun tipo di reddito. C'è stata una mancanza. Davide Salvadori torna con un brava e benvenuta Silvia, la moglie, alla talk delle brigate. La conosciamo, una certa Silvia, giusto, giusto. E di questa cosa ci ricorderemo molto bene. E poi appunto, come già si citava, anche a livello comunale, tutta la campagna Milano non si ferma ovviamente è stata completamente nociva e ha fatto in modo che La gente non se la ricorda sta campagna proprio. Non è che se l'è legata al dito, esatto, non è che se l'è legata al dito. Tu devi leggere, non so se hai mai letto i commenti sotto il video originale. Dovete morire male bello, che bello, quanta goduria. Capire invece come arrivare. Salutiamo l'entrata nuova in platea per il talk delle brigate. La fantastica sorella di Yaffi, per cui è molto importante ovviamente ricordarsi di tutte queste cose in prospettiva. No! Bravo Davide, bravo, giusto, così si fa. Hai capito cosa devi fare, devi guardare la diretta e ascoltare noi. Ti arriva fra 10 secondi, ma ti arriva. Allora, sicuramente, come ho già detto prima, Davide, se hai il coraggio, ringrazi i compagni di Zona Rossa in luce quelle che sono dai, ti sfidiamo mandando anche il link della radio, viviamo, esatto, doppia sfida sostenibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista poi sanitario. Non so perché la gente saluta solo te in luce, questa cosa non volevo tirarla perché fuori, non ti conosce ancora Lorenzo, non ti conosce. Salutiamo Vittorio, la platea aumenta, ma si vola, si vola, 84 ancora una volta si sono dimostrati incapaci di gestire questa situazione e di risolverla. Sicuramente lampante è la vicenda dell'ospedale Milano Fiera. Certo, Chris. Questo perché 21 miliardi di euro che avrebbero potuto essere decisivi nella lotta al virus, cosa ci fai tu con 21 miliardi di 21 milioni di euro? Stesso, cosa ci fai? Se investiti adeguatamente, invece compro un territorio per tutti noi. In che modo avrebbero potuto essere investiti? Devi dare un aumento di stipendi ai medici, tamponi per chiunque fosse entrato in contatto, pagare con persone Covid positive, psichiatri per tutti, oppure fornendo dispositivi di protezione individuale per tutti quei medici volontari stessi. Operatori di soccorso che invece sono stati abbandonati Martina dice non è vero, non così in maniera palese, quelli che tuttora vengono contagiati e purtroppo spesso muoiono, oppure ancora come ha detto Isa prima attraverso programmi di indennizzi per tutti coloro che hanno perso il lavoro, si trovano in cassa integrazione oppure si trovano sull'orlo della povertà in situazioni drammatiche. E invece di ancora una volta quello a cui abbiamo assistito è stata una sanità svenduta al profitto e alle speculazioni, ed hanno ragione, cioè bisognerà chiedere conto di questa cosa e verrà fatto sicuramente. E quindi ricordiamo come ha fatto grazie. Isa la campagna Ora casa fateci voi, che noi abbiamo sottoscritto. La prossima domanda che è sempre un po', diciamo, e che sarà anche su MIM, su Milano in Movimento, no? Sia sulla pagina Facebook di Ora casa fateci voi che su MIM, quindi seguitela perché sarà un passo decisivo e importante. E se avete delle storie da raccontare sulla sanità di questo periodo, mandatele. Io dalla striscia stato di chiesto Gaza, qualcosa, chiesto brigata, qualcosa ai nostri alla brigata Basaglia di raccontarci un po' risate si ride, si anche, ride, si ride anche perché il dolore è anche gioia felicità e commozione, non Maddalena Utopia, tutti portati da Snello col suo bellissimo commento. Bravo, eccoli Snello. Eccoli, arrivano. Come detto, la fase 1 insomma è stata, adesso proclama il comunismo in tutta Milano Sud, è gestita in maniera servita agli interessi di Confindustria. La fase 2 ugualmente è la fase 2 della borghesia, nel senso che non è basata su nessuna evidenza scientifica, ma sempre su interessi in Confindustria di riaprire immediatamente. E io quindi penso che insomma la questione sia di riprendersi l'agibilità politica, che tentano di togliere con la repressione usando la quarantena, perché l'hanno stata in polizia, e invece imporre le misure per la nostra fase 2, che devono essere appunto il reddito per tutti, assunzione di affitti, la creazione di nuovi posti di lavoro per far fronte all'emergenza. Il compagno della Madonna. Quindi penso che in questo senso sarà fondamentale anche insomma valorizzare tutto il lavoro fatto in questi mesi, a questo fine qui, fare rete, coordinarsi a livello sempre più alto e insomma portare avanti queste campagne a partire da questa che si è detta per la dimissione, penso, della giunta regionale, non solo con l'obiettivo di far rimettere, ma ragionando su cosa deve venire al posto di questa giunta e di queste istituzioni. Io penso che in questo senso vanno appunto valorizzate tutte quelle realtà popolari che fin da subito si sono mosse per far fronte all'emergenza, gli operai che hanno scioperato per far chiudere le fabbriche che i padroni volevano tenere aperte, i lavoratori della sanità che si sono mossi. Vai Mattia, insisti! Nel governo proprio del territorio. Ecco. Siamo gli unici comunque che hanno falce e martello nell'inquadratura, sì, ragazzi. Porca Madonna, che compagni! Poi il muto. Eccoci. La fase 2... sicuramente la fase più cruciale, più delicata. In relazione si cambiano i microfoni detto, per evitare che i frullatori entrino, abbiano rientro. Scusate, sono Lorenzo è diventato un rapper, quindi da ora in avanti parlerà soltanto in rima. Io mica come prima, scomparso, quindi è quella facendo una parolina. Ed è quella anche più delicata. Buonasera signorina. No, di non diciamo rilassarsi, ma anzi di rimboccarsi le maniche, di continuare a guadagnare quel terreno politico che si è conquistato anche con il coinvolgimento Mattina, di nuovi severissima, volontari. Uno sguardo attento, segue lo schermo e scrive. Centinaia. Manda dei messaggi, manda, scrivi sotto la chat. Un milione scrivi e mezzo di cose persone, che hai detto, quindi bellissimo. Va aumentato il numero di volontari. Davide Pagliaccio non è mica scritto che di ascoltare Zona Rossa. Mi spiace, ma che stiamo affrontando che è legata esclusivamente al Covid, ma appunto quella di Milano è una realtà che offre veramente tantissime contraddizioni, quindi non è la città c'è degli aperitivi, ma è la città dove la gente lavora e ha bisogno di trovare dello spazio anche dove fare del mutualismo. Per quello continueremo, magari non facendo più come per esempio servizi di spesa a domicilio perché la gente uscirà di più, ma sostituendoli con degli sportelli legali di assistenza per chi magari ha perso il lavoro, ha bisogno di un aiuto dal punto di vista lavorativo. L'abbiamo visto dalla questa fase 2 che è iniziata ieri, abbiamo già avuto delle morti sul lavoro. Allora, guardiamo in faccia a chi sta a prendere decisioni, ribadiamo quali sono i punti. Quindi la sicurezza sul lavoro non è soltanto il Covid, ma è proprio una sicurezza che deve essere fatta a tutto tondo. Per le brigate in questa fase 2 sarà necessario strutturarsi, organizzarsi per appunto continuare a essere presente su quel terreno anche quando comincerà la fase 3, la fase 4 e così via. 2020 sta a Zoom come 1992 sta a Allora adesso spero collettivi. Che sia migliorata attenzione, la situazione attenzione. Tecnica, audio del... E così. Una volta avevi volantino il collettivo, adesso la c'è fase 2. Salutiamo Martina che entra dalla pura gestione dell'emergenza la sanitaria. Visione di questa talk da qua. Cioè, un tipo molesto prima che è entrato nuova, ad ascoltare. Terribile, quello non ci parlo con quello. Mamma mia, a meno male, gentaglia. non ci sarà un calo. Viene quasi voglia di iniziare a litigare nei commenti. Secondo picco, quindi di fatto tutte le attività di assistenza per la riduzione del contagio continueranno e si affiancheranno a tutta la platea sempre più allargata di persone che non percepiscono reddito. Infatti, stai calmo, non c'è andare troppo pesante. Reddito perché lavoravano in nero con contratti a chiamata e via magliettina dicendo, stile marinaio per l'enorme fascia di un bellissimo poster in alto. A cui saranno i contratti a tempo determinato e che molto probabilmente non verranno rinnovati. L'intera conversazione con le brigate verrà registrata e sarà disponibile sia sul canale YouTube che sul profilo Facebook di MIM e il podcast di Zona Rossa. Non avrebbero usufruito di aiuti economici o alimentari, ma che si troveranno nelle condizioni di doverlo richiedere, quindi un allargamento di questo di tutti i servizi che già svolgiamo. E dal punto di vista delle brigate, quindi, non più tanto una fase di sperimentazione, ma una fase di consolidamento. Il prossimo mese sarà il mese in cui vedremo tutto il lavoro fatto in questo mese e mezzo, due mesi di attività, come riuscirà ad andare ad evolversi, costituendo uno spazio pure centrale all'interno del panorama milanese, in cui saremo sempre più centrali dal punto di vista delle organizzazioni presenti nella gestione dell'emergenza sanitaria ed economica. Bellissime parole. Tutto un pixel. Allora, Mattia manda a quel paese qualcuno. Non cosa è successo? Mattia agita le mani. Tutto. Sta agitando le mani. Ma chi è Mattia? Mattia. Dopo due Mattia. Quel Mattia. Certo, Mattia. Libertà, oh, che carino. No, il gatto è passato dall'altra parte. A livello psicologico. Bellissimo. Il flusso di comunicazione che ci ha fatto a tutti star male, penso che la Brigata Vasaglia più che mai deve rispondere a quello che saranno i sogni, no? E diciamo che la gente piano piano si è abituata a stare a casa, purtroppo. Adesso c'è una seconda sfida, c'è un secondo momento molto significativo per riprendere quello che è il benessere individuale. Martina ormai vorrebbe avere Lula come migliore amica. Andando oltre quelle barriere che sono state messe, sia a livello fisico che a livello psichico e emotivo, per cui sicuramente ci aspetta un bel lavoro, molto significativo. Grazie. E mi viene solo da aggiungere che pixel spalmati come marmellata sullo schermo. Le abbiamo elaborate. E in realtà guarda che mi sei tu. Perché proposte di un cambio di paradigma verso una società transfemminista e ecologica. Quindi, insomma, avanti di quanto? Delle proposte sono ben chiare. Un intervento parlava del mondo del lavoro, ci terrei un attimo anche a ricordare che le fabbriche e le aziende hanno riaperto e chiedo perdono. Guglielmo, devi guardare più film di Kubrick. Questa è una cosa da tenere bene in mente, la questione della sicurezza del lavoro e della tutela delle nostre fragilità, delle nostre vulnerabilità. Un giorno di apertura morto sul lavoro. Adesso vi faccio l'ultima domanda. È uno a rischio vita. Ma era coronavirus e problemi. A tutti. Uno a rischio vita è un morto. Come vedete, insomma, il futuro delle brigate, quale può essere il ruolo delle brigate nel... Diciamo, attenzione! Nel la domandona tempo, arriva. Cioè nell'immediato, ma anche nel lungo termine. E non so se vogliamo iniziare da Gimma, vuoi iniziare? Poi Milano Sud, Vasaglia, eccetera. Fate un po'. Iniziamo con Gimma, va? C'è uno che tocca lo schermo. Sì, che dire, eccolo. Milano il futuro si delle è brigate. Dimostrata la città che è e che conoscevamo noi, ma adesso è un po' più evidente agli occhi di tutti, con delle fragilità e con delle contraddizioni. L'obiettivo del futuro delle brigate è quello di non disperdere l'attività che si è fatta fino adesso, di non vanificare soprattutto le reti sociali create durante questa emergenza. Bisogna prendere conoscenza delle criticità del territorio e di riuscire appunto a fare la vera e propria resilienza, cioè Gym, ormai. Dover tirare fuori e estrarre il massimo che c'è di positivo da una situazione che è negativa, drammatica e tragica, quindi prendere tutto quello che è stato fatto, le relazioni con le altre brigate e creare un movimento a Milano che sia unico, che sia di collaborazione, di raggiungimento dei medesimi obiettivi, ognuno appunto secondo le sue possibilità, le sue capacità. Questo è anche un augurio che facciamo. Oh raga, la capacità di sintesi comunque è incredibile. Vabbè, sono d'accordo. Vai! L'intervento che mi ha preceduto, eccolo, sulla questione di sviluppare sicuramente nei prossimi tempi un coordinamento sempre più ampio. Insomma, noi come abbiamo detto all'inizio, il lavoro lo facevamo prima e sicuramente continueremo a farlo cercando di valorizzare al meglio quanto costruito. Come farlo? Chiaramente è ancora un po' ambito di discussione. Io penso che sicuramente un aspetto principale sia, diciamo, non limitarsi al mutualismo, ma sempre più rendere anche in ogni quartiere le brigate, diciamo, un punto di riferimento per le masse popolari nell'elaborazione e applicazione di un programma popolare per far fronte alla crisi con le misure che dicevo prima. E poi anche tenendo conto del fatto, insomma, che appunto con questa nuova fase tanti torneranno a lavorare, tanti il lavoro l'avranno perso, tanti di noi anche l'hanno perso. Esatto. A lavorare, io penso che anche debbano diventare organismi che possono, insomma, bisogna imporre alle istituzioni che diventino organismi che impiegano anche i disoccupati, i precari del quartiere per i lavori che servono a far fronte all'emergenza sanitaria, alla sanificazione, la cura dei più deboli e in generale a riqualificare i quartieri popolari che sono disastrati. Valorizzare la presenza di disoccupati dei quartieri e far lavorare loro. Grazie. Non chiamare altra gente da fuori. Non so se Lula in modo che il territorio si prenda cura di se stesso. Bravo Mattia, cazzo! Bravo Mattia! Bravo! Ma urliamo perché ci sentono, che sono appena di sopra. Sicuramente quello che abbiamo fatto come brigate questi due mesi è stato molto intenso e con tutte le cose che sono nate e tutto il lavoro che stiamo facendo, quindi io mi auspico che questa cosa sia il più possibile, quel tipo di collana che indossa Clara, diciamo, c'aveva anche mia sorella che si chiama Clara, una continuità, andava un sacco di moda quando eravamo piccoli, prima, no? Vero, molto anni 90. Qualche compagno era che per la prima volta moltissimi gruppi, in realtà, associazioni, eccetera, sul territorio milanese stanno provando a belle notizie da Napoli, insieme, anche a Napoli stanno consolidando le brigate, ognuna con la sua autonomia territoriale. Però questa è una cosa molto bella, deve essere importante, che prima a me piace c'era molto altro chiamare confederalismo democratico, likes, ovviamente è un'aspirazione, io lo studio, è una cosa veramente rivoluzionaria a cui tendo e quindi questa è la prospettiva che mi piacerebbe che le brigate si dessero. Ovviamente il periodo che andremo ad affrontare è molto complesso e quindi starà anche alla nostra capacità di cercare di arrivare sempre più persone, raccogliere appunto la rabbia, le emozioni che tutto questo periodo le ha scaturito per farne sempre più una forza dal basso. Non so se Stefano lancia un un'idea interessante, occupare i municipi. Ma penso che ecco, cioè, gamba tesa Stefano, meglio di te sicuramente non avrei potuto dirlo. Secondo me importante anche sarà importante continuare un po' a ecco entra macio in platea a ricordare, addirittura ad assistere. Come un benessere che non comprende solo quello che è tornato, che un certo Snails medico della persona. Io vedo che è tornato Nils a vedere la diretta. C'era a pensare un individuo a 360 gradi, no? Per cui sarà almeno responsabilità o sarebbe bello che diventi una responsabilità del lavoro delle persone che saranno all'interno della brigata Vasaria e continuare a pensarci così e continuare a lottare per quelli che sono. Hai visto Marti, ti ha risposto alla domanda senza dire che tu di benessere, di vivere bene, che non sono c'è connessione. Voi due lì però rispettate le distanze, non ho capito. Scusa per limonare il radio così, allora non è che se c'è un microfono di mezzo allora va bene. Lucrezia, se vuoi anche tu rispondere a questa domanda. Allora, noi abbiamo cominciato a sbaglio ci si sente poco l'Elena Modotti. Ha parlato della brigata, prima. La prima vabbè, dai, Isa ha fatto degli interventi molto solidi. Basta la Franca Rame e non penso che abbiano diviso le domande, non hanno fatto una domanda a tutti. No, però si è sentito tanto, cioè hanno fatto poche domande a loro. Nessuno se ne fa carico. Per cui è imprescindibile che determinate fette della popolazione non vengano più dimenticate e abbandonate a loro stesse, quindi questo progetto è necessario. Non si riesce a superare gli 84 per visions, Milano però dovrà essere portato avanti. Quello che, come hanno detto Fioccane, mi piace le altre a Radio brigate, ZTM. Tutta gente ovviamente, oh, 86. Tutta gente che sta guardando la diretta e ma ascoltando l'audio, sicuramente scindendosi il cervello perché siamo su due emergenziali timing diversi. E quindi esserci in ovunque sia necessario, quindi esserci sempre e essere sempre più formati e in grado di affrontare determinate situazioni, ecco. Isa, se vuoi anche tu aggiungere qualcosa. Hai visto, allora, Guglielmo? Rapidissimamente, sì, perché è già stato detto tanto, sicuramente credo che le brigate abbiano fatto finalmente uno scatto, fatto fare uno scatto anche ai movimenti a Milano, quantomeno, e che abbiano evidenziato quanto chiaramente la comunità vinca sull'individualismo e secondo me una delle cose che ci dobbiamo riconoscere, oltre al lavoro che abbiamo fatto, è anche che comunque le comunità hanno risposto e quindi questa città, come si diceva in principio, è sicuramente una città escludente per alcuni, ma è una città anche disposta. C'era qualcuno che parlava di comunità. Alla rete, c'era qualcuno, alla comunità. Qualcuno anche. In questo senso, io credo che il nostro obiettivo sia anche quello di evidenziare delle contraddizioni sempre di più nel futuro, per cui ad esempio sempre per questa contraddizione tra individualismo e comunità, continuare a ribadire anche all'opinione pubblica, visto che comunque in questi mesi abbiamo osservato tanto, che è chiaro che non è colpa della persona che va a correre o di chi porta fuori il cane, è colpa di un sistema che è contro di noi, è colpa di Lorenzo, come diceva benissimo anche Lula prima, quindi sicuramente andare a smantellare anche certe credenze nella mente delle persone in un'ottica di rifondare delle comunità che si fidino tra di loro. Sicuramente abbandonare un po' anche la retorica che non è stata nostra ma che ci è stata un po' anche affibbiata dall'opinione pubblica, che è quella di ragazzi bravi, caritatevoli, generosi, buoni, che sicuramente si spendono per il prossimo, gli angeli del fango. Ecco, noi non siamo angeli del fango, siamo strutture organizzate, ci picchiamo con la polizia, sanno quello che stanno facendo, che hanno anche messo una bella pezza laddove le amministrazioni non riuscivano ad arrivare. Trasformiamo questo lavoro in un osservatorio sulla povertà, che sì, su nuove e vecchie povertà, su marginalizzazioni esistenti già da prima e che continueranno ad esistere dopo, e facciamo emergere tutte queste contraddizioni, rendiamo la nostra parola una parola tagliente e che vada un po' anche a creare degli scossoni nell'opinione pubblica, perché è ovvio che non possiamo limitarci al mutualismo, ma dobbiamo iniziare ad organizzare questa fase 2, che è una fase 2 che avrà tutto un lavoro da fare. Parole forti, parole importanti. Innegabile, innegabile. È tutto registrato e lo rivendichiamo. Vuoi anche tu rispondere a quest'ultima domanda? Sì, io credo che, mi auspico che l'attività delle brigate continui ad andare avanti, perché come è stato detto fino adesso l'emergenza continua, nel senso anche questa narrazione dell'emergenza a volte è anche un po' limitante, perché le situazioni di crisi sociale continuano ad esserci, la crisi economica avrà ampio respiro e siamo sempre in emergenza, cioè nel senso in questo momento, entrando anche a contatto con determinate situazioni, con determinati nuclei familiari o persone, la povertà dilaga, ma nel senso è sempre stato così, adesso ovviamente sarà una cosa che si andrà ad acuire, e credo che tutte le brigate, con tutte le loro diversità e le loro particolarità, in base anche alle zone e ai territori in cui agiscono, si faranno trovare pronte. Su questo ne sono abbastanza sicura, per cui mi auspico che questo lavoro continui ad esserci. Poi credo anche che nei momenti di crisi, nei momenti di vuoto, in un certo senso, ci sia molto spazio per l'immaginazione. Quindi possiamo inventarci tantissime iniziative diverse che possono andare ad aiutare o appunto creare reti di mutualismo molto forte in questo momento, e credo che sia fondamentale, come è stato detto fino adesso, cercare di smarcarsi un po' da questa retorica appunto degli angeli, ma dare una prospettiva anche c'è da dire comunque che a me o a noi non mi pare che nessuno abbia mai detto se degli angeli del fango, ci hanno ringraziato, sono stati bravi. Io mi auspico che in tutte le zone ci siano sempre più iniziative e che continua, mediaticamente, la narrazione mediatica della cosa è effettivamente questa, che forza fisica per quello che stanno facendo, noi siamo quelli che agitavano le persone, però gli angeli del fango secondo me erano un'altra roba, perché era riferito al salvare il bene culturale, l'eredità culturale del paese quando è successo. Adesso siamo vicino alle persone, ma non siamo nemmeno gli infermieri, non pensiamo nemmeno per gli infermieri, siamo quelli che fanno la solidarietà, cioè, per carità di Dio, è comunque abbastanza pacificata come cosa, però. Ecco, non è una domanda a cui dare una risposta facile. Sicuramente uno degli obiettivi primari, soprattutto comunque della brigata, è sempre stato quello di cercare di coinvolgere la totalità dei volontari, per cui e riuscire a trovare un attimo di calma e tranquillità per confrontarsi su questo tema. È arrivato anche un certo Roberto Maggioni, giornalista delle dubbie valori morali. In questa prima fase siamo stati, diciamo, perché lo conosciamo, abbiamo iniziato a gettare le basi di una rete solidale nei nostri quartieri, dando una mano appunto a tutte quelle persone più colpite. Adesso ci aspetta una fase 2 che sicuramente sarà caratterizzata più da una crisi socio-economica. Noi ovviamente, tra l'altro, lui, caro compagno Tombino, pugile fortissimo. La situazione, l'andamento. Pare che forse è anche uno degli insegnanti della palestra Bullbox. Abbiamo fatto fino ad adesso con la dei pacchi, l'aiuto alle persone più colpite, ovviamente sperando che tutto ciò possa portare comunque in un futuro ad una legittimazione del lavoro che abbiamo svolto fino ad adesso. Allora, intanto vi ringrazio, tutte e tutti per aver partecipato a questa chiacchierata, e solo magari in conclusione un po' una suggestione che mi arriva un po' dalle vostre risposte, è quello proprio di organizzare una risposta determinata, che sia puntuale, che sia ferma nelle richieste, e credo che ci siano tutti gli elementi per potersi organizzare tutte e tutti con questo obiettivo. E spero, insomma, di magari un domani di poter replicare questa iniziativa e di vedere come andranno avanti le cose in questa fase 2 e nella prossima, se ce ne saranno altre. Ma siamo in conclusione. E non so se qualcuno vuole dire qualcosa, se no vi ringrazio. Neanche una mezza. Ma no, intendo baci, abbracci, cosa ha fatto la zia ieri. Saluti, fate saluto comunista. Ciao. Quello che facciamo su Zoom. No, ma dai, Milano in movimento. Indecenti, non lasciano neanche adito al fuori onda. Io spero che in redazione abbiano qualcuno che veda Blob e che abbia registrato il prima e il dopo di questi interventi. Ma veramente. Sta partendo un'altra cosa che non deve partire. Cos'è? Tipo un video di non gente che va. Sentiamo i nostri compagni che dal tetto scendono sempre. Bravi. Con le misure di sicurezza. Bravissimi! Volete venire a integrare qualcosa ai microfoni di Radio ZM? Compagni! Tia! Cico! Venite in radio! Noi abbiamo la fortuna di avere parte delle brigate vicine e vogliamo concedergli l'opportunità di poter ampliare un minimo qualcosa che secondo loro è rimasto in sospeso. Avete altro da dire? È una domanda, potete anche dirmi no, siamo soddisfatti così, se c'è qualcos'altro, che perché abbiamo una parte di gente che ha ascoltato noi tramite appunto la diretta di Mim e un'altra parte che ha ascoltato solo Mim, però questo podcast rimarrà, quindi se volete dare un piccolo contributo in più, quello che chiederemo. Ah sì, dite qualcosa, non rompete i coglioni. Ricordatevi che siete su zona rossa, cioè nel senso siate sboccati come pochi. Cico, se vuoi ti chiamiamo al telefono. Io non sarò sboccato, però volevo dire che in tutta l'intervista, che è stata molto interessante, sono emerse molte idee, magari è uscita poco la questione che dobbiamo valorizzare tutta questa esperienza, sì, per far fronte all'emergenza economica, sanitaria, eccetera, ma soprattutto per costruire una nuova società diversa da questa attuale, che mette al centro interessi i lavoratori, studenti, disoccupati, casalinghe e le classi popolari in generale. Ciao a tutti. Cigo. È strano questo modo di parlare di Mattia, le classi popolari, popolari, la massa, un governo di blocco popolare. Ma che è strano, mi sembrava un manifesto di qualche gruppo, ma boh, forse magari mi sbaglio. Devi parlare al microfono, sennò in radio è difficile sentire. No, ma questa, l'altro giorno ho visto un documentario sugli anni 70. Strano, tu che guardi il documentario. Assemblea in fabbrica di migliaia di operai. Sa? E lì usavano tutti masse popolari tranquillamente. Cioè, è un termine che nella nostra storia intende una categoria ben precisa, che sono tutti quelli che devono lavorare per vivere. E non saprei dirlo in un'altra maniera, se non usando questa perifrasi. Oddio, ma quanto è forte. Perché comunismo, oddio, è scientifico, ci vogliono termini scientifici. Ragazzi, adesso mi metto a piangere, cazzo. Mi metto a piangere. E io con te. Quindi diamo la parola a Cigo. Vai, perplessità, Cigo. Dubbi, altre considerazioni? Prego. Grazie Cigo, sei stato gentilissimo. No, dai. Scusate, volevo fare un po' zona rossa, se no... Ho una domanda bastarda per Guglielmo. Ok. Allora, vai Cigo, innanzitutto sei stato utile come un sovrammobile nel Sahara, cazzo. Grazie mille. Con la mascherina in mano, così a fare finta che ogni tanto abbiamo delle DP anche noi, quando non è vero. Tu vomiti, sì, in faccia, dai, alle vecchiette, schifoso. Sì. Vai. No, innanzitutto sono onorato di essere finalmente a Zona Rossa come ospite. Cazzo, in vero? Ma Dio! Per la prima volta. È la prima volta. È bellissimo. Tutto questo è fantastico. Per seconda cosa, sono assolutamente d'accordo con Mattia, il discorso sulle comunità resistenti e il confederalismo democratico è una cosa che si sente spesso in questa zona, diciamo. Anche quindi, altrove abbiamo visto stasera che ha attecchito anche altrove, ne siamo contenti, diciamo così. Bravo, vedi, Cigo è magnanimo, non è come me che è rancoroso e velenoso, no, lui... Hai detto gentile, le due parole che più mi scaldano il cuore, che sono confederalismo democratico, grazie. Grazie Cigo, quando vuoi, Zona Rossa, grazie. Mattia, no, non è che ti prendi lo zaino e te ne vai, tu adesso rimani con noi e parli per sette ore insieme a noi di masse popolari, confederalismo democratico, documentario sugli anni 70, no, non è vero, ciao Mattia, è stato bello, grazie ciao Mattia, mille. Grazie. È stato fantastico vederti qui così. In realtà io lancio una provocazione. Provoca. No, cosa fai? Ma tu non l'hai capito niente. Adesso non finisci tu più. Tu non hai capito niente. Facciamo pagare. Chiudete quella porta, per favore. Maledetto bastardo. Allora, senza fare nomi e cognomi, magari li facciamo, ma ci importa poco perché sono pubblici ormai. È arrivato un messaggio nella chat, nei commenti sotto la talk. E vorrei un po' di chiarezza, vorrei sentire anche i vostri pareri. Magari quello di Cigo, passami il termine, può essere un po', come posso dire, di poco conto, perché qui si parla di date che anche io ho pochi ricordi, in questo caso anche Guglielmo, però Guglielmo ha un'esperienza sicuramente politica più alta di tutti noi messi insieme. Non 2020 so, sta forti. Zoom verso 1992 sta Volantini e Collettivi. Il candidato Cigognini risponda in 10 parole. Esatto, cioè è arrivato questo messaggio, è stata fatta questa sorta di... cioè... Io sono in posizione per contare le parole di Cigognini. Allora, vai. Penso che... per la situazione in cui siamo 5-6 troppe, errato, per la situazione in cui siamo sia quasi l'unica scelta, nonostante ce ne possano essere anche altre che non saprei in questo momento, però speriamo di poter tornare presto a fare i volantini, attacchinaggi, cose molto divertenti e che fanno parte anche del nostro panorama e abitudini e... diciamo così. Guglielmo? Possiamo far calare un silenzio imbarazzante sulle parole di Samuele? Avevamo delle aspettative, in realtà, però vabbè. Non può andare sempre bene. Sei un democristiano cecchiebottista? No, vabbè, grazie Cigo. Comunque Zoom è una merda, sono d'accordissimo. Ma perché? Ma non è quello. Ancora, non posarlo, tienilo lì. Comunque non è quello il terreno su cui volevo provare a incamminarmi. Vediamo se Guglielmo mi passa la palla. Ti passo la palla. Ok. Ho capito la stessa frase. No, arriviamo a sviluppare un pensiero insieme. Ma perché dovremmo? Cioè, voglio dire, è un programma che non ha pensieri, sono tanti gli zii. No, allora, io la cosa che mi interessava capire era se questo commento era velatamente polemico o meno. C'era una roba tipo siete modaioli, cioè una volta andava di moda con il volantino, adesso va di moda Zoom. Vorrei interpretare un po' questo commento, perché quello che almeno interpreto personalmente è... sono sboccato perché Zona Rossa è sboccata. Non avete le palle di prendervi le strade perché si dice che non si può, perché ci sono dei decreti, e piuttosto che sporcarvi le mani e farlo, sporcarvi altro e farlo, sì, finisce tutto su Zoom e con una grande chiacchiera dai computer. Io la interpreto così. Però dopo lo stessa persona ha fatto un commento in realtà positivo, cioè dove che lo leggiamo. A tutte le brigate, se volete formare digitalmente aggregazioni come MIM, quella è prima, 40 minuti. No, dopo, verso la fine, lo stesso Stefano. Diciamo, ha scritto su Facebook. No, non prima, dopo. Sfaldate. Eccolo. Dai, scusami, sono sfaldate a livello proprio cronologico, non capisco come mai. Le ultime, vabbè, non capisco. La risposta è stata: dai, continuate coi fatti, chi ne sa di più organizzi la resilienza e occupi i consigli di zona con la conoscenza della base. Secondo me, dato anche l'utilizzo di lessico specifico, secondo me la persona non deve essere uno che non sa, cioè non ha mai visto un centro sociale, eccetera, quindi è che fa quello che vuole rompere le palle, eccetera, detto per dire proprio un po' tagliato con l'accetta. Per cui, cioè, in realtà, facendo un match tra questo commento, dove in realtà lui sta indicando una roba anche sensata, seppur ovviamente un po' complicata da realizzare, cioè occupare la zona di governo locale, più locale che c'è, più vicino a te, e utilizzare quella zona, quel luogo, per controllare il territorio a non circostante, più prossimo, per l'esattezza, cioè, guardando questo commento, quello di prima era tipo... siamo arrivati a questa situazione. Ok, siamo arrivati a questa situazione. Anche così è. Dopodiché, cioè, nel senso, per fortuna, boh, non lo so, magari mi lancio in cos'è. Non ho visto tanta gente che faceva la spaccola, per cui, vabbè, ma io sono stato a fare lo stesso volantinaggio. Esatto. Cioè, chi la faceva esatto. Erano degli idioti, o Forza Nuova che però non ha fatto niente, o tutti i vari nazi, il 29 che non hanno fatto niente, o il 25 aprile che non hanno fatto niente. Certo. Cioè, l'estrema sinistra, extraparlamentare, movimentista, eccetera, non mi pare che siano dei gruppi che più di altri abbiano detto, no, bisogna riprendersi le strade ora. C'è chi commenta quello che fanno gli altri dicendogli che così facendo tarpano le ali alla rivolta sociale, però non li ho visti, ecco. Esatto. Segnare i pacchi personalmente. Vediamo, magari erano in quelle 70 persone nel pubblico e con questo talk sono riusciti magari a chiarirsi anche un po' di dubbi, chissà, incertezze, vediamo. Chissà. Vedremo i frutti sicuramente quando frutteranno. Fruttiamo, insomma. Cigo cigognerà. Martina si lamenta di qualcosa che succede in radio. C'è del fumo. Ah. Non nel senso del prodotto di marijuana. Sì, esatto, staranno cucinando. Va arrosto un pezzo di Milano Sud. Ti ricordi quando abbiamo cominciato Zona Rossa? Ah, che esatto. Annunciavamo gli incendi in giro. Vero no? Vero no? E no, ce n'erano. Ci raccontavano che c'era un odoraccio. Che è partito tutto da loro, tra esatto, l'altro. Sempre da lei. Sempre lei che vede il fumo, chissà perché. Incredibile. Ci avrà un radar. Adesso io vorrei ricordare che c'è uno studio che afferma che la maggior parte delle chiamate fatte ai pompieri vengono fatte dai piromani. Sì, confermo, perché sono Martina? Stato nella Terra dei Fuochi per l'estate in cui è stata decretata qualcosa? La Terra dei Fuochi in Basilicata. E ho assistito a un incendio esattamente sopra la mia testa e la mia tenda. E non ci siamo spostati perché era molto in alto. Ci eravate molto pigri. Esatto, e siamo rimasti ad ammirare lo sfacelo di quel pezzo di bosco. E quando siamo andati poi la mattina dopo col Canadair che ci passava a 10 metri dalla testa a fare colazione al bar, ci hanno detto, ma no, è normale, ne appiccano uno ogni settimana più o meno. E sono gli stessi pompieri che per fare gli straordinari col Canadair, perché le uscite in Canadair sono pagate un sacco di soldi, appiccano gli incendi e poi fanno le uscite. Noi abbiamo chiamato i pompieri tutta la notte, ci dicevano no, ma non possiamo venire lì, siamo al confine con la Calabria, stanotte stiamo qua tutto il tempo per aspettare che il fuoco divampi così tanto, perché poi ci metti davvero tanto a spegnerlo col Canadair. Ci hanno messo tutto il giorno, quindi tutto il giorno di straordinari. Qualcuno? Se posso dire una cosa? Prego. Quando gli ho non lo sappiamo io, se puoi. L'estate scorsa in campagna mi hanno chiesto, perché in campagna come fai a dirgli la via? Cioè, gli ho detto, io sono qui, lo vedo da questa posizione, insomma. Mi hanno detto, signorina, così come facciamo? Vada un attimo, boh, non si può avvicinare a vedere un attimo, mi manda la posizione. Ma col cazzo, scusa, devo andare lì davanti alle fiamme per dirti... Comunque siamo bravissimi che ci autocitiamo sempre, stiamo parlando del fuoco, perché nel nostro logo c'è l'immagine del fuoco. Il nostro logo... È una cornetta, logo. Quindi vuol dire chiamateci se vedete in fiammate. Cielo. Madonna! Ah, ok. Quindi tu hai colto l'essenza di Zona Rossa, perché ci hai avvertito dell'odore di bruciato le primissime volte. Stiamo arrivando. Quindi Gulli è un pompiere. Cico, questa di questa era cara. Aia. La vedremo dall'altra parte. Tu secondo me stai ascoltando i dettami del tuo amico pusillanime Norberto, che lo invochiamo Norberto, se ci sei. Adesso facciamo una bella ascoltato. Cosa, facciamo una bella cosa. Lo chiamiamo col Norberto. Telefono di Cigo, perché sicuramente vai, gli risponde subito. Comunque subito, volevo subito. Anche dire che qualcuno cantava rispettiamo solo i pompieri, forse dopo queste cose. È perché è tratto Guglielmo nelle forze dei pompieri. Esatto, non sono più rispettabili. Cosa stai facendo, Cigo? Che gesto un po' difficile, Cigo. Che stai facendo. Fatto. Madonna, se risponde a Cigognini lo insulto. Mi date 3 minuti che lo insulto. Scommetti che risponderà, capirà minuti. Di essere in diretta e metterà giù. Ovvio. Schifoso maledetto. Usi l'anime. Sai che c'è lo shortcut? Ti veniamo a prendere. Sappiamo che lo chiama. Guarda che ci sono i cuoricini, guarda. Sì, Norbicidi. Eccolo. Eccolo. Togli il Bluetooth, rispondi. Perché sennò facciamo un casino. No, ma si sente. Si sente, si sente. No, non si sente più. stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Non risponde nemmeno Norberto. Ti ha messo giù. Lasciamogli un messaggio di segreteria. Lasciamogli un messaggio di segreteria. Che deve spendere i soldi. No, il numero di telefono. Si sente il numero di telefono, non si può. Ma è il numero di telefono di Cigo? Ma chi no, di Norberto. 2-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Allora, devi rispondere a Radio ZM, hai capito? Vergogna! Devi rispondere! Carino, bastardo, non ti rivolgiamo più la parola! Cazzo, cretino, facendo coglione, testa di cazzo, devi rispondere, bastardo. Rispondi a Radio ZM! Sgombo, bastardo, ciao, bellissimo! Quanti, ti facciamo malissimo, cretino. È andata no, così. No, ma non me la sono presa, no! Ma va, ma è andata va, così, figurati. Non doveva andare... Cosa, cosa? No, lascia ma parla lì, al microfono. Sì, allora parlo al microfono, io non sono abituato, io sono abituato devi... a parlare dal telefono. Ma quando parli al telefono, lo metti così, giù per terra così, o lo tieni al... Tieni, allora, tieni con una mano sola, il microfono, il cellulare, così... lui vuole quello che le cuffie e il microfono al lato, hai capito? Il signorino, certo, perché sennò non lo fa, certo. No, sennò non è capace, si arrende così... è l'arbitro della finale mondiale, no? Lui è l'arbitro della finale mondiale. Guarda, non vedevamo il giorno in cui avresti messo piede in questa radio. Non lo vedevamo e non lo volevamo. Esatto. Io invece lo volevo. Non vedevo l'ora. Ma quanto sei contento, eh? Dai, tenete botta che intanto io sto morendo. Bravo. Cosa è successo? Vuoi dell'acqua? Guarda che qua dentro c'è dell'acqua. Chi è? C'è anche della candeggina. Compagno Pica deve riprendersi al più presto. Si beve il succhino. Va bene, caro Cicognini. Allora, dici un po', raccontaci questo talk delle brigate. Quali emozioni hai vissuto mentre facevi questo talk? Cosa hai pensato in questa situazione? Allora, devo dire che è stato comunque molto interessante. Ho avuto modo come di... comunque? Nonostante la noia totale che ho provato. Nonostante mi sia... Grazie Pica per nonostante mettermi abbia sempre sentito un sacco di cazzate. Cigo, devi stare attento a ogni lettera che dici in questa radio. C'hai ragione. Allora, no, è stato molto interessante sentir parlare anche compagni che non si erano mai sentiti o con cui non si era mai... non si aveva mai avuto rapporti. Diciamo che magari è la volta buona veramente che si possa tornare a qualcosa di un po' più, a un movimento un po' più unito. Diciamo, io che non ho conosciuto il pre, perché è da molto poco che faccio parte di questi ambienti. Vabbè, non è che l'anno e mezzo che hai fatto nella rete studenti non conta, anno, cioè. Quindi sono 2 anni che faccio politica. Beh, ho capito. Pensa se erano 2 mesi. Non conosco non ha capito, non ha capito, non ha capito. Ci stiamo agitando, ci stiamo agitando. Prego. Pronto. Oh. Oh. Allora, com'è? Norberto. Norberto. Oh. Sei una merda. Fai schifo, Norberto. Volevamo solo dirti. Sei che in diretta su Radio ZM. Ma che cazzo? Sei ma una merda. Dai, cosa volete che sto cucinando? Ma sei cosa stai cucinando su Radio ZM, Norberto? Sono 8 anni che ti chiamiamo, coglione. Se parlate di cucina, non capisco un cazzo, raga. Perché non ci rispondi mai e quando chiama Cigo ci rispondi? Bastardo. Perché di solito Cigo mi deve dire una delle sue cazzate. Le cazzate di Cigo le vuoi sentire, le nostre no. Guarda che noi te ne diciamo un sacco altrettanto belle. Sei pusillanime. Pica, guarda, appena torna Zam non hai idea. Ma di cosa non hai idea? Che sei, che sei diventato uno squallore vivente. Fai dolore, Roberto. Sai che passo 24 ore della mia vita con Guglielmo. Minchia, mi interrompete quando cucino. Proprio. Cosa stai cucinando? Starai facendo una pasta in bianco. Dai, stai zitto. Sì, conoscendo le mie abitudini, sì, sicuramente. Capisco. Vorrei far notare come è stato fatto presente. Raga, io mi sento malissimo. La stessa persona tutti i giorni non vada bene. Quindi io, Pica, ti capisco e mi dispiace. Mi capisce, Norberto, perché mi hai lasciato da solo con Guglielmo, hai capito? Hai ragione, sono stato... ho sbagliato, hai ragione. Poi Gugli è proprio una brutta persona, quindi... guarda, prenditi conto cosa devo fare, Norberto, per parlarti, apostrofarti, come si conface alla tua schifezza morale. Io devo citare Giulio. Devo citare Giulione Polemica, che un giorno disse sei mellifluo. Sei mellifluo. Chi lo disse, scusa? Tu utilizzi parole melliflue, caro Norberto, e sei un liquidone. Madonna, ma proprio Giulio Polemica è brutta, eh? Lui proprio no. Sai che comunque lui è Grande Spolvero. Grande Spolvero l'ho visto in forma in questi giorni e mi ha detto, mi ha sussurrato all'orecchio, sfiderò Norbi e lo batterò nel 12° plenilunio della quarantena. Preparati. Ah, ho capito, va bene, allora aspetterò. Vabbè, ma quindi questo talk delle brigate, siamo sicuri che l'hai seguito, avrai ascoltato Cigo, avrai ascoltato il compagno Mattia, che è un grande compagno, no? Come la schifo fotonico che sei tu. Cosa ne pensi? Ma che cosa dovrei aver sentito? Io ho studiato tutto il giorno, io non so di cosa stai parlando. Va bene, niente. Va bene, allora cosa hai studiato? Dai, sentiamo. Hai studiato? Ho studiato. Oh Madonna, davvero devo dirlo? Ah, certo, dai. Te l'ha chiesto in diretta nazionale. Ho studiato procedura penale, uh-huh, e poi ho letto un libro di filosofia del diritto. Va intero, bene. Intero. Esatto. Il pomeriggio. No, non proprio intero. I robot esatto, che scorrono. E imparato. Ok, questo lo dice alla mamma per fare finta che hai fatto qualcosa. Capitolo 1. Dai, sentiamo. Cosa hai letto oggi? Lo sai? Io non capisco niente, Gulli. Non sento una minchia. Te lo dice Lorenzo. Te lo dice Lorenzo. No, il capitolo 1, oh. Norberto, per favore. Dai, procedi Norberto, procedi. Il capitolo 1 di che cosa? Non sto sentendo, raga. Del libro di diritto penale che hai letto. E di che cosa deve parlare il capitolo 1 di procedura penale? Di come iniziano i processi. Oh, come iniziano i processi? Illuminaci. Dai, raga, davvero, ti prego. Allora, sarei passato due pomeriggio a fissare il libro... pensando tipo, ma se mi conto le dita 6 volte cambiano il numero delle dita, cioè, avrei fatto una roba del genere, quindi non è che... Pensa che però alla settima è cambiato il numero, hai visto? Attenzione. Sì, la trovi. Magia. A me la quarta. Vabbè, come iniziano i processi, quella... dai, no, minchia, io non ci posso credere. All'interrogazione vai così? Esatto. Eh? All'interrogazione vai così. Oh, ma professore, cosa vuole? Ma vuole che inizi i processi? Beh, c'è sì. Uno mi dice, oh, è ma no, coglioni. Ma prof, ma proprio adesso, ma va, ma... Sì, ma raga, diventa noioso il programma in radio. Proprio questa cosa dovete chiedere. È brutto il programma in radio così. Ah, aspetta, perché tu sai cos'è un programma divertente. Vai. Guarda, io veramente. Sicuramente non è il programma Zona Rossa. Questo certo, è sicuro. Veramente, guarda. Guarda che pusillanime. Stai parlando male di Zona Rossa? Dica, comunque, appena torno rifacciamo una puntata in radio insieme, così si alza la qualità per sai una che, volta. Sai eh? Che ho ascoltato il nostro podcast l'altro ieri, mi stavo commuovendo, era veramente quello su Dax, proprio bello. Bello, è proprio bello, Anzi, podcast. Io e Norbi abbiamo fatto due puntate insieme, una in cui io abbiamo parlato un po', poi ho letto Il Ragno Rosso, mi ha fatto compagnia, e un'altra invece che era una delle prime pillole, appunto, per ricordare Dax. E abbiamo fatto quell'intero programma insieme, dove ha parlato però per l'80% di Roberto. Oh. Perché è molto formato. È formato su Dax? Io sono formato. Infatti abbiamo avuto, se non sbaglio, 2.000-3.000 ascoltatori. Qualcosa più o meno del genere, esatto. Poi quando hanno capito che Zona Rossa non c'eri tu, basta, siamo tornati a 5. Crollato, ragazzi, che ci volete fare? Così, ma torno presto, tranquillo. Grazie. Secondo me è quell'aurea campana che ti porti dietro. No, Cico, non si intendono le campane in quel senso. No, questa è brutta, scusate, okay. Questa è la brutta. Cicolini, dici qualcosa, non ti addormentare con il microfono. Non saprei che cosa potremmo dire. Allora, parla Norberto. Chiamalo, cioè fai finta che sia una telefonata normale. Cosa diresti a questo punto a Norberto? Forse no, è meglio di no. Cigo, non lo fare, Cigo, non lo fare. Facciamo che è meglio di no. Mamma mia, di cosa parlate? Di quante volte avete limonato quel dirigente di piazza? No, di politica internazionale. Certo. Esatto, queste cose qui. Sì. Il federalismo democratico. Federalismo democratico. Esatto. Via della queste seta. Cose qui. Queste cose qua. Alla fine siamo ragazzi semplici comunque. Norbi, ma secondo te come deve essere un uomo con un braccio che gli esce dalla schiena? Quelle cose lì che dice tra di voi, sì, loro no? Sì, di solito la cosa sì. Cigo, sentiamo? E Cigo a questa domanda risponde, beh, un uomo scomodo. Ma tu come fai a sentire quello che ci diciamo io noi? Io sto sentendo ma davvero perché a lui Madonna, se o gli dai le cose Madonna, non è che qua pure una scimmia si accorgerebbe che ci sono le cuffie attaccate alla radio e noi siamo in cuffia quindi si ascolta così. Io ricordo che è la prima volta che tengo un programma radio con sì, voi. Sì, ma raga, la roba è evidente, cioè questo è amico di Norberto, si mandano i messaggini, si chiamano. Sta migliorando la situazione perché si vedono poco adesso, però esatto. Non so se lo recuperiamo. Non so se lo recuperiamo. Comunque Norberto, altra notizia sconvolgente, Cigo sta un po' diventando il prefe di Macio, eh? E lo sta diventando per andare a fare il prefe di Macio. Prefe di Macio. Beh, sì, vabbè, quello rimarrò sempre io, lo sapete, dai. Sì, posso stare anche anni, ma però da notare quanto con tanta facilità appena tu non ti fai più vedere ti subalterna sì, così. Sì, vabbè, ma quello che Macio fosse un traditore, io lo sapevo, vabbè, quello. Comunque, sai cosa stavo pensando in questo momento, Pica? Che sarebbe ancora più bello avere due collegamenti telefonici contemporanei. Però sì. Non si può fare, bisogna farlo da Zoom. No, ma nel momento in cui abbiamo un mixer a più canali, puoi mettere tutti i telefoni. Ma loro si sentono tra di loro, se posso avere la discussione. Perché sarebbe bello a questo punto chiamare Macio e inserire anche Macio alla discussione. Macio! Non si sente. Sono un sognatore. Sono un sognatore. Non si sentono tra di loro, è vero. Sogno anche tu che non abbia una dignità e Cigognini sia una persona utile, ma sono sogni. Purtroppo rimarrà un sogno. Ma ricordati che Tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Minchia, sì. Mamma perché mia! Le stelle sono tante, milioni di milioni, ma una, quella di Negroni vuol dire qualità. Andiamo avanti. Abbraccio, cosa ti viene in mente? Dai, vai, vai. Non lo so. Bravo. Facciamo all'olandese, alla Lars von Trier. Cosa vuol dire? Tentazionismo di Boris, voi non capite. No. Madonna, Gulli, Roberto, riprenditi Cognini, riprenditelo. Gulli, ti chiamano Roberto. Dici, Roberto, dici. Hai perso la buona abitudine di picchiarli, per questo Cico sta facendo così. No. Io sono cresciuto bene. Hai ragione. Io ricordi dell'estate passata, di quando delle ginocchiate di Guglielmo. Matto, ti ho dato, ma sono andato due carezze. Ah, grazie. Su, ma per piacere, chissà se mi volessi fermare. Io sono scioccato da tanta violenza. Bravo. Sì. Ma vai, vabbè, allora, hai fatto finta di studiare e hai cercato di turlupinarci. Hai ormai consacrato Cigognini al tuo erede nel cuore di macio. Dici almeno cosa stai cucinando. Cosa sto cucinando? Allora, purtroppo non saranno d'accordo, non saranno contenti gli amici vegani, ma sto cucinando le salamelle. Sì. Ma per te o per tutti? Eh? Per te o per tutti? Boh, in realtà per tutti, bello, cioè non sono tantissimi, sono 5, però per tutti. Ciao, 5 bello. Minuti arriviamo in 7, va ma bene. Infatti, dai. Facendo il cestello, grazie Norbi, ciao. Ascolta, visto che è la prima volta che rispondi e spero non sia l'ultima, se no ti veniamo veramente a prendere a casa. Come ora beh, ma io da oggi se mi chiama uno di voi non rispondo più. È perché prima invece lo facevi. Esatto. Cioè, ma guarda, metto i beep dopo, senti. Allora adesso ti leghiamo immaginificamente alla sedia e ti facciamo tutte le domande che facciamo ogni volta che chiamiamo qualcuno. A raffica. Oh, Madonna sì, santa. Sì, sì, sì, così, sì. Sì. Allora, dai. Facciamo che, visto che non ci sono più date, il primo giorno di libertà, cosa farai? Beh, verrò a Zamp. Oh, finalmente una persona. A fare qualcosa o a non fare niente come sempre? Oh, mio Dio. Cosa? A fare qualcosa o a non fare niente come sempre? A lavorare come al solito per costruire una società migliore, più giusta e più uguale. Come ogni giorno della mia vita. Raga, è un avvocato fatto e finito, dice cazzate proprio, va benissimo proprio. Hai già il diploma in mano. Poi andiamo avanti che sei caldo, vai, ti sento caldo. Vai Cigo, un'altra domanda, fagliela tu. Dai, mi le sai a memoria le domande che faccio. Fissa Lorenzo volta. Sperando che la domanda gli esca negli occhi. Cosa vedi dalla tua finestra? Bravo Cigo, cazzo. Più o meno, più o meno, finestra? Avrei da sindacare, sì. Ma fa niente. Cosa vedo dalla mia finestra? Beh, ovviamente due cose bellissime nel cuore di tutti noi: le case popolari e l'orizzonte rosso. Oh! Ok, prima era avvocato, adesso è proprio napoletano, è romantico. Io vario tra il poeta e l'avvocato. Sì, esatto. Poi la prossima te la fa Guglielmo. Che canzone vuoi ascoltare? Qualsiasi. Cosa? Qualsiasi. Che canzone vuoi ascoltare? Che canzone vuoi ascoltare? Di un genere particolare? No. La prima che ti viene in mente è la canzone proprio che dici voglio ascoltare assolutamente questa in radio. Tanto va bene, allora liberato. Più forte delle bombe di Colle del Fomento. No, sbagliato, c'erano 50-50, ora liberato era Colle del Fomento. Va bene, allora ha liberato tutte, dai. No, ormai. Più forte delle bombe ormai l'hai detto. Ma vedi che secondo me potrebbe darsi che ce l'abbiamo. Cigognini, a questo punto chiedigli a Roberto chi vuole chiamare dopo di lui. Chi vuoi chiamare dopo di te? Chi vuoi che noi chiamiamo? Non saprei. Direi Dupe. Ma ci risponderà al telefono. Lo chiamiamo sempre al telefono di Cigo. Che tanto è un infame. Non sta ascoltando la radio. Non se lo aspetterà. Così. Però intrattenete Norberto ancora qualche secondo. Vai Cigo, intrattieni. Io faccio un'altra delle domande. Cosa vedi Vai. Dalla gratosoglia rossa comunista? Cioè, cosa è successo oggi nella gratosoglia rossa comunista? Bene. Ma in realtà non lo so perché ho studiato tutto il giorno, quindi non è che io abbia guardato cosa è successo molto a Grato, sinceramente. Però Grato è sempre bello, è sempre un quartiere vivace, quindi sarà successo sicuramente qualcosa che io non so. Giusto. Sei stato vago e inconcludente quanto si addice agli uomini della tua arisma morale inesistente. Grazie Norberto. Forse abbiamo un brano musicale pronto. Sono arrivati Colle, ciao Colle, eccoli. Va bene Norberto. Norbi, grazie, ma grazie un po' poco però. Un po' grazie a cazzo. Grazie tipo. A cazzo. Esatto, va bene, grazie Graziella anche a voi. Salutaci, a posto. Salutaci Sveva e digli, fagli terrorismo, digli che prima o poi prenderemo un telefono di una sua amica, la chiameremo col telefono della sua amica dato che a noi non risponde, eh? Abbiamo capito di farla di Cirillo come abbiamo appena fatto con te.

solleva perché sennò non ti si sente. Devo metterlo così proprio, blowjob. Tipo, esatto, tipo blowjob, ti cadono le tipo Bugs Bunny. Eravamo nel cortile di Zam che stavamo scrutando l'orizzonte o scrutando l'orizzonte, Gulli, correggimi, a seconda di quale sia la parte del corpo che usavi per vedere. Esatto, niente, praticamente siamo stati incastrati da questa nuvola di fumo enorme che ci ha incuriosito. Siamo andati a vedere Tu guarda, è proprio in corrispondenza di dove hai l'orto. Hai iniziato a pensare, ma guarda proprio un po', avevo paura che stessero bruciando le nostre cime di rape e le nostre bellissime zucche. Sono andati lì a vedere praticamente una famiglia di, anzi neanche una famiglia, diciamo una comunità di senza tetto, hanno appena dato fuoco all'orto per errore perché è pieno di polline. E niente, sono appena stati sgomberati pure da quel piccolo pezzo di terra schifoso che potevano avere. E niente, perché erano lì ovviamente a Umma Umma, non era no, non sono era orti proprietà. Abusivi, mm-hmm. Sono orti abusivi di un terreno privato e niente, se lo sono giocati così, così in fretta. Più che altro perché è stato demolito dalle fiamme, il nostro è salvo, ma bella proprio lì. Intonso e ce lo portiamo a casa. Bella lì, bella lì. E ce lo portiamo a casa. Radio ZM, parco 2. Yeah! Grande Davide che ci presenta questa storia di vita vissuta da Milano Sud, colonne di fumo, inizio maggio. Tanto questo forse potrebbe anche farci riflettere sul fatto che praticamente non ha piovuto negli ultimi due mesi, quindi è anche abbastanza facile che tutto prenda fuoco. Lorenzo viene assorbito dal telefono. Mi arrivano messaggi agghiaccianti di agghiaggianti azione di servizi di delivery perché stanno riaprendo le cose. Oh madonna Zandi. Dai che si torna a lavorare. Allora noi possiamo annunciarvi allora il cambio di programma che c'è stato in corsa, perché a Zona Rossa piace cambiare anche a prescindere dalla volontà di chi lo conduce. Assolutamente. Quindi anzi, il nostro ci pieghiamo alle volontà. Esatto. Il nostro punto di riferimento è Luce nella notte dell'ignoranza, Andrea Staid, purtroppo è fermato per una causa personale. Stasera non l'avremo in collegamento, gli auguriamo presta guarigione e tante ciao Andrea cose. Ciao Andrea, ci manchi, già di brutto un sacco. Però lo ringraziamo per la puntata del primo maggio, mi raccomando, i podcast sono usciti in una forma un po' diversa perché troverete un'intera compilation sul nostro archive con la grafica bellissima che ha preparato Macio proprio per l'evento Demon on Air e c'è tutta la scaletta, quindi potete riascoltare l'intera giornata di podcast in ordine così come l'abbiamo realizzata. Voci di corridoio dicono che a breve verranno preparate delle estrapolazioni dai podcast del primo maggio con cui noi manderemo dei loop fantasmagorici per cui imparerete a avere degli slogan fighissimi detti direttamente dalle voci di chi li diceva. E anche voi potreste diventare uno slogan. Esatto, infatti Zona Rossa si munisce di questi nuovi dispositivi. Mandateci delle registrazioni pulite, tranquille, e noi le rimanderemo in diretta premendo un semplice bottone. Quindi è arrivato il momento della citazione di Chiara. Clic! E parte la citazione di Chiara. Noi potremmo lanciare questa cosa come una piccola challenge, dato che piacciono tanto le challenge. Esatto, le faceva Pitbull di solito le challenge per dirvi i nostri riferimenti culturali quali sono. Ghiaccio, l'ice challenge. Sì, quella, l'ice bouquet challenge. La gente che si tirava ghiacciate addosso. E se non ce la facevi dovevi pagare dei soldi, se non sbaglio. Questa dovevi dare dei soldi proprio per beneficenza. Ah, giusto, è vero, per beneficenza. E poi ovviamente c'era chi si tirava il secchio addosso e pagavano la beneficenza. Quindi, lo stesso anche perché erano quelle persone un po' povere, tipo Cristiano Ronaldo, Bill Gates. Però era bello la nostra challenge invece? La nostra challenge è di qualcosa di sinistra. No, scusate, la spontaneità di questa risata è dovuta a una serata, anzi a una chiusura di serata che abbiamo passato qua a Zam. Chiamiamo lui e gli chiediamo qualcosa di sinistra. Quindi da adesso in poi, Zona Rossa, non riesco a parlare da questo, sono emozionato. Zona Rossa si doterà di un nuovo, non quello di prima. Vi vendiamo una seconda pentola, non una prima. Il cavolo cazzo è? Ce l'ha portato via Cigo. Pezzo di merda, brubalchiotto bastardo. Un secondo dispositivo che è quello della nuova domanda durante la telefonata, forse dell'unica domanda che arriveremo a fare ad alcune dai, di qualcosa di sinistra. Dai, ma le domande quindi a questo punto potrebbero essere: cosa fai quando finisce, quando sarai libero? Dico cosa di sinistra e qualcuno a cui chiamare. Forse potremmo togliere il... No, beh, in realtà quando... Perché mai siamo già liberi? Questo è il problema. Problema tu ce l'hai grosso. Messo il volume? Certo. Qua. Yes. Intanto i La musica doveva alzare il volume. Benvenuto nel servizio di segreteria. I nostri sogni si infrangono così contro una segreteria telefonica. Peccato, peccato, perché poteva riempire questi sei minuti in maniera molto degna e decorosa. Ma vi raccontiamo, oddio, appunto, ricordandoci come è esatto. andata la prima serata, non lo so. In chiusura rimasimo io, Francesco Beltrame e Guglielmo Corradi in un tasso alcolemico indefinito. In ma realtà. Forse no, era più un tasso di stanchezza. Era stanchezza, dopo una serata no, era dopo più serate di fila, esatto. Eravamo arrivati alla frutta, esatto, alla frutta esatto. marcia ormai. E Guglielmo gli veniva voglia di insistere. Ha insistito così tanto verso questa persona nel chiedergli qualcosa. Beh, di sinistra. Possiamo dirlo, Ivan. Ivan, no, Ivan. Ma perché è stato curioso? Perché in realtà Ivan è un ragazzo che si impegna moltissimo. È venuto con noi anche al festival Antifa di Aurora, l'Antifa Fest, no? È un ragazzo che ci pensa, l'immaginario, eccetera. Stavamo parlando, a un certo punto mi è venuta questa cosa di qualcosa di sinistra. Ed è stato fantastico, perché poi è stato come quando il destino si compone perfettamente, no? Per cui, poi c'era già... Tu sì, ma stavo parlando già con te, o tu sei arrivato dopo? No, ero presente, stavo finendo di pulire. E beh, è stato chiesto a me, esatto. È stato chiesto a Beltrame qualcosa di sinistra, noi abbiamo risposto alla prima botta subito. Ma Ivan, anche Giulio, Claudio. Quello è il motivo per cui mi stavo scoppiando a ridere, lui non riusciva niente, a dire così. Non ho mai visto Guglielmo ridere così tanto. È stata una serata memorabile. Memorabile, veramente. Veramente fantastico. Ma a questo punto noi possiamo continuare a svelare il nostro programma che viene cambiato e modificato. Noi pensavamo di poter tornare indietro agli orari soliti di Zona Rossa, ma in realtà abbiamo deciso di anticipare il nostro bellissimo chiaro di runa, cioè la nostra linfa di informazioni, la vitalità di tutto questo. Il nostro momento di infobesità. Esatto, quando siamo lì che ci facciamo delle domande e aspettiamo delle risposte. Quando siamo lì che contiamo i fili d'erba in un campo di deserto. Quando siamo lì che pensiamo, è meglio avere un cane o un gatto? Quelle volte che sei a fare ginnastica nelle sale d'attesa. Quella volta che sei al supermercato e dici, ma prendo questa cosa o prendo quest'altra? Ma che origine avrà quest'erba che c'è dentro questo composto? Boh, vorrei proprio saperlo. Quando vedi anche un computer ti dirai, ma lui mi legge, esatto. Mi ascolta. Esatto. Quando ti chiedi, ma se guardo l'oscurità, l'oscurità mi guarda? Insomma, per tutte le domande che avete c'è una persona a cui puoi rispondere a tutto. La chiamiamo subito, l'avete capito? È il momento di lei che sola può illuminarci dopo Andrea Stide la strada nella nostra notte dell'ignoranza perenne. Chiara, noi ti invochiamo. Noi come, ti invochiamo. Come si faceva con i Guardian Force in Final Fantasy. Ciao, eccola qua. Ehi. Guarda, noi ci stiamo provando a fare un'introduzione un po' pittoresca, colorata, spero sia stata di buon gusto. La stavo ascoltando, tra l'altro, e mi chiedevo se avreste proseguito dicendo ti chiedi come i quasi quasi e brancoli nel buio, facendo una cita di altissimo livello. E invece niente. Ma tu cosa stai facendo con le cuffie? Tipo hai abbassato me, hai alzato te? Grazie. Prego. Hai alzato i microfoni? Non prego, lo so. No, stavo cercando niente. Ah, ok, va bene. Ciao Chiara, come stai? Come va? Ciao. Va bene, dai, siamo qui. Siamo al solito punto. Ma secondo te, tu l'hai sentito il talk delle brigate? L'ho sentito molto a tratti, in realtà. Mm-hmm. Ho sentito solo dei piccoli pezzettini. Ok. Vabbè, allora... E tra l'altro, per quei piccoli pezzettini, a un certo punto mi sono connessa a radio e ti ho sentito mentre accusavi tutti di leggere dei testi scritti. Esatto. Vero. Esatto. Vero, con quasi tutti e tutte. Sono quel tipo di persona brutta che guarda gli altri quando fanno le cose, sì. Ma perché io. Poi secondo me non si può capire benissimo in realtà chi sta su Zoom, non puoi capire effettivamente cosa sta facendo in quel momento lì, dopo l'inquadratura non c'è niente, se si gira dall'altra parte non è detto diciamo che sia... Diciamo che il trick originale rimane sempre che se ti scrivi qualche cosa sullo schermo stai guardando contemporaneamente la telecamera e stai leggendo, esatto, buffonando come al solito. Ma Chiara, dovresti già sapere, perché tu sei un affezionados di Zona Rossa, che per esempio anche Andrea quando fa i suoi esami in università chiede di condividere lo schermo. E se tu fai condividi lo schermo si vedono tutte le finestre aperte, quindi il professore sgamato vede che c'avevi una pagina di appunti. Ma devo dirti la verità, che non era il caso del talk di oggi, devo dirti la verità, in realtà credo di avere capito che ci siano tutta una serie di sistemi. Adesso i vari atenei si stanno giustamente ponendo il problema rispetto a come gestire i propri esami. Gli orali in parte, ma soprattutto gli iscritti, perché evidentemente diventa ancora più complicato. Chiaramente, adesso deve essere in una facoltà scientifica. Ci sono una serie di programmi che addirittura praticamente tracciano il movimento degli studenti. No. E quindi quando alzano o spostano lo sguardo fisicamente proprio, diciamo, segnalano questo movimento ai docenti, che eventualmente possono andare a vedere in quei secondi che cosa sta facendo e decidere se sostanzialmente bloccare e sospendere la prova, certo, per il singolo coso oppure no. Niente, Chiara, ci hai servito su un piatto d'argento il prossimo argomento, che sarà didattica online, dispositivi di controllo, sì, no. Cioè, è sì, proprio quello. Ma argomento di una trasmissione che non siamo noi. Perché, no. Ma perché? Quando cazzo ne parliamo? Abbiamo 750 persone da chiamare, 900 domande da fare. Lorenzo, ma io non ma è bellissimo più, argomento. È un bellissimo argomento. È vero, bellissimo. No, secondo me è un argomento fighissimo che andrebbe posto a tutta una serie di insegnanti. Diciamo di insegnanti classici e sicuramente di tutta quella che è la didattica speciale a distanza, che invece apre tutta una serie di altre parentesi abbastanza massicce, nel senso vero, che, vero. Ovviamente il sostegno, diciamo, già l'insegnamento a distanza è molto complesso, il sostegno a distanza è meglio che niente, ma è per lo più impossibile. Peraltro, quindi è un argomento molto... Peraltro, tu che ci dici che c'è questo software che ti permette di tracciare gli occhi dello studente, vedere dove sta guardando, ed è un utilizzo ipercivile, forse abbastanza anche un pochino, tra virgolette, non super utile, ecco, non penso che sia quello su cui hanno speso più milioni di dollari nell'avanzamento tecnologico. Chissà cosa sono capaci di fare da una webcam software militari per quanto riguarda il riconoscimento facciale, tracciamento dei comportamenti, eccetera, eccetera. Beh, eccetera. Ma questa cosa di cui tu parli è stata modello di discussione per i primi anni in cui le webcam, da oggetto piccolino che potevi attaccare e staccare al computer a piacimento, si sono implementate all'interno degli schermi, certo. Quindi le prime croci con lo scotch sono degli anni 90, che arrivano e non a caso. Giustamente. Esattamente. Ma va bene, veniamo a noi. No, dici pure, Chiara, dici. Sì, sì, no, tra l'altro, no, voglio dire, infatti c'è un brillante filosofo della tecnologia seduto accanto a te, e quindi immaginavo che lui potesse essere... Guglielmo, no, non sapevo che la stampante avesse studiato filosofia della tecnologia. Cazzo, grande, mitica stampante, oh, fantastico. Ma è incredibile, la tecnologia oggi, tu studi anche se stessa, ma è fantastico. Gli sto togliendo il microfono, lo sto cacciando dalla finestra. Ma no, per piacere, lui è il buco, io sono il Morgan. Capito? Punto mi giro e dico: cosa è successo? Dov'è Guglielmo? Esatto, lui è così, filosofo della tecnologia, che tendenzialmente la sua frase è: mi sentite? Mi sentite? Ma lui sta parlando ai meccanismi informatici. Lui sta: mi sentite? Popolo di byte. Un giorno darò a un montatore audio i tuoi podcast quando non ci sono, come registri. Esatto. Poi va bene, ma scusami, Chiara, di plugin per abbassare e alzare i volumi. Esatto, comunque, morale e non. Comunque, scusami, Chiara, ti rubo ancora un minuto. Secondo me sono due persone a capo dell'informatica mondiale, Lorenzo, e l'altro è quello che in Yo Robot fa il discorso a Will Smith e gli parla il fatto che ha capito che i robot stanno sviluppando una propria coscienza. Sono loro due. A livello di filosofia dell'informatica, sono loro due. Io gli dico: no, non è vero, cosa dici? E Lorenzo gli spizza. Il ghostwriter di entrambi è Will Smith. Certo. Vabbè, dai, Chiara, torna, perché qua c'è bisogno di farsi queste grasse risate, esatto, tutti i giorni, tutto il giorno. Esatto. Per favore, perché non si può. Troppa serietà. Ora che siamo allegramente senza lavoro, tutti senza lavoro, tutti senza lavoro. Va bene, carissima Chiara. Noi oggi abbiamo avuto il talk con le brigate e qui ci è venuto in mente subito l'associazione con quel noto gruppo politico militante che tanto ci piace per le cose che ha fatto di buono, ma forse anche di controverso in Italia, ma abbiamo detto no, quell'argomento lo terremo per un altro momento. Abbiamo detto no, nel senso, per dire sì, abbiamo detto no, non ne parliamo oggi, per farne sì un'altra volta con più calma. A rimandare. Esatto, oggi vogliamo parlare di quella... Poche parole Cosa, scusa? Niente, stiamo scherzando ovviamente il brigadiere all'ascolto, che anche lei inizia con prima. Beh, comunque oggi c'era un certo compagno dall'altezza scarsa, diciamo, che quando si facevano, dopo una sequenza di messaggi tipo oh, dobbiamo andare a prendere questo, oh, dobbiamo andare a prendere quello, si parlava di ortaggi, ortofrutta, cassetta, a un certo punto fa, oh, ma quando è che andiamo a prendere gli AK? Tu, grande, tu, compagno dalla scarsa altezza, sei un compagno scaltro. Vabbè, esatto. Detto questo, salve brigadiere. Bene, sì. Esatto, abbiamo pensato che brigate fa rima con brigante, che non è assolutamente vero, ma noi siamo degli idioti e quindi esatto. Niente affatto, ma comunque tra l'altro poi io che inizialmente vi avevo dato appunto questa grande notizia sul fatto che le due cose non fossero collegate, ovviamente poi sono andata a cercarmi l'etimologia e ho scoperto che parzialmente in realtà qualche combo fra brigate e brigante, attenzione, tutto sommato c'è. Attenzione, tutto sommato c'è. Siamo tutto re. Adesso siamo proprio interessati. Allora, esatto, questa suspense. Allora, no, fondamentalmente quello di cui volevamo parlare effettivamente era il brigantaggio, ma essendo un tema molto ampio, ci soffermeremo, diciamo, nella giornata di oggi nel cosiddetto grande brigantaggio, che è l'epoca del brigantaggio post-unità d'Italia, fondamentalmente. Uh-huh. In realtà, siccome per l'appunto in realtà il brigantaggio è un fenomeno parecchio antico, volevo fare una mini carrellata introduttiva per dire quanto cazzo è antico, perché questa cosa io sinceramente non ne avevo la più pallida idea. Attenzione. Quindi con antico e veramente antico, intendiamo che in realtà le prime forme di brigantaggio si registrano nella antica Roma. La Madonna. Wow. Quindi nello specifico a Taranto nel 185 avanti Cristo c'è un'insurrezione sociale composta principalmente da pastori che diventano sostanzialmente vere e proprie bande nel giro di molto poco, e all'epoca già, diciamo, possiamo trovare qualche vago accenno di questo brigantaggio, per quanto evidentemente non fosse ancora così definito. Stiamo parlando comunque di un fenomeno di più di 7.000 persone. Fega. Tenendo conto che stiamo parlando del 185 avanti Cristo, una bella botta di gente, non tante come quelle che seguono Onda Rossa, evidentemente. No, assolutamente. Zona Rossa, ma evidentemente comunque già qualcosina, certo. Ma scusa Chiara, tu vuoi fare, cioè, se dopo la carrellata hai già in mente questa fase, te lo chiedo dopo, ma quindi come si compone il brigantaggio? Perché non è vandalismo e non è nemmeno guerra civile? Allora, effettivamente è molto complicato, ed è molto complicato nel corso della storia, nel senso che sia nel corso della storia che nell'ultima parte, che è quella che poi raccontiamo oggi. Diciamo che in generale è un fenomeno che vede formarsi bande di malfattori guidate da un capo che attentano a mano armata a persone e proprietà. Quindi in realtà banditismo e brigantaggio sono molto, diciamo, intercambiabili per alcuni versi, okay, per quanto cambino poi effettivamente le loro caratteristiche nel corso del tempo. Effettivamente, per esempio, dopo l'antica Roma, il fenomeno si ripropone nell'età del Medioevo e fondamentalmente fino al XVII secolo, ed è qui probabilmente che nasce il termine brigante, e nasce dalle, come dicevo, dalle brigate di mercenari. Erano appunto quindi soldati di mestiere al servizio di chiunque fosse disposto a pagarli, come tutti i mercenari, ma che erano abbastanza soliti compiere razzie e seminare un po' di panico e delirio fra le popolazioni con cui venivano in contatto. Quindi per esempio in questo caso, nonostante il nome di brigantaggio nasca qui, di fatto è molto molto vicino al banditismo, che tra l'altro è altrettanto un termine che nasce abbastanza in questo periodo, nel senso che erano i bandi, gli editti di bando, che per cui venivano banditi dalle città, e quindi in realtà in questo caso effettivamente non è che fossero necessariamente delle figure particolarmente diverse dai banditi, di fatto erano più o meno la stessa cosa. nel periodo subito successivo, e qui la taglio veramente corta perché ovviamente di ognuna di queste cose si potrebbero dire un miliardo di robe, però di ognuno di questi periodi si potrebbero dire veramente un sacco di cose, però un altro dei periodi che è abbastanza massiccio dal punto di vista del brigantaggio, sì, è quello subito successivo, quindi quello pre-Unità d'Italia, okay, sì, quindi stiamo parlando di 1700 e inizio del 1800, e in questo caso inizia un brigantaggio legato in una qualche maniera a delle questioni politiche. Sono delle questioni politiche, in questo caso di occupazione territoriale, cioè nascono in particolare in chiave antifrancesi al nord e antiborboniche in Campania. Ok. È anche uno dei momenti, che è molto figo ed è il motivo per cui ci tenevo particolarmente a dirlo, in cui nasce il cosiddetto, diciamo, è uno dei momenti di picco del cosiddetto banditismo sociale, che è una definizione che dà Hobsbawm, che è quello del secolo lungo e secolo breve, per intenderci, sì, ed è, diciamo, il bandito sociale è quello che corrisponde un po' all'archetipo di Robin Hood, no? Cioè il bandito con grande carisma che protegge le masse povere dalla arroganza delle elite economiche e sociali. Che poesia, mamma mia, che poesia. Ci sono un sacco di figure iper mega fighe, ovviamente, legate a questa cosa, che è una cosa per l'appunto che coinvolge tutta la penisola. Madonna. Sono molto legate, per lo stesso motivo di cui sopra, al, diciamo, alla cultura popolare. Quindi ovviamente ce ne sono un miliardo, sarebbero fighissime a raccontarle tutte, ne cito una per questioni, diciamo, affettive e compagnesche, nel senso, certo, che un brigante nasce nel 1773 nella provincia bergamasca, ruba ai ricchi per dare ai poveri. Ma forse sa come si chiama? Nasce col nome di Vincenzo Pacchiana ed entra talmente nelle grazie della popolazione locale da diventare un personaggio dei teatrini e del teatro dei burattini con il nome di Paci Paciana. Oh, attenzione. Per mandare un abbraccio ai nostri fratelli orobici. Quindi in realtà, per esempio, questa è una figura, cioè questo è un momento in cui si creano tantissime di queste figure. Il brigantaggio rimane brigantaggio e continua a non avere delle precise definizioni dal punto di vista sociologico, fenomenologico, ma sicuramente, diciamo, c'è una sorta di evoluzione per cui da quelle brigate di mercenari un po' deliranti del Medioevo, queste figure iniziano ad essere tutto sommato, diciamo, a capo di gruppi uscoli e bande, ma essere anche, diciamo, darsi un senso all'interno del sociale, quindi sia in termini di come dire, di giustizia sociale, sia in termini di territorialità e quindi occupazionistiche, eccetera eccetera. Okay. Tutto questo per dire che in realtà il protagonista, diciamo, della storia di oggi, che è il grande brigantaggio, ovvero il brigantaggio post-unitario, arriva un po' a chiudere il cerchio da qualche, sotto alcuni punti di vista, nel senso che in questo caso, cioè questa parte di brigantaggio si definisce effettivamente per una connotazione notevolmente politica rispetto alle altre. Lo è proprio in reazione all'occupazione all'occupazione di fatto, che, sì, che ce ne racconti la storia tradizionale delle truppe sabaude e della Unità d'Italia successiva. Ed è un fenomeno che per questo motivo in realtà ha una connotazione politica, ma una connotazione anche territoriale, nel senso che mentre quello di prima appunto raccoglieva dalle Alpi alla regione Etnea, in questo caso parliamo di Meridione in particolare, anche perché appunto in realtà non fosse altro perché, cioè, veniva già percepita una distinzione fra centro-nord e sud, in quella che poi sarebbe stata definita non tantissimi anni dopo in realtà la questione meridionale, e in realtà di fatto in questo caso il brigantaggio nasce, diciamo, da uno scontento popolare notevole legato a questioni politiche che avevano appena sconvolto, che stavano sconvolgendo la storia della penisola, diciamo. Dicevo che in realtà è difficile dargli una definizione, e userò, diciamo, cioè, per parlare di brigantaggio, uno può parlare di rivolta, di insurrezione, di movimento, di guerra civile, da diverse persone sono state definite in maniera diversa. Nello specifico, se diciamo la storiografia normalmente la definisce come brigantaggio, la storiografia cosiddetta revisionista, quindi quella diciamo che va un po' più nel profondo rispetto a tutta una serie di questioni geopolitiche, e non si ferma a visione romantica risorgimentale, per cui potremmo dire storiografia critica, siamo tutti fratelli, sì. In quel caso la storiografia revisionista dice che effettivamente è la prima guerra civile d'Italia, zero anni dall'unità, nel senso che stiamo parlando dell'unità d'Italia del 61, quindi certo. Oltretutto che non ha ancora preso tutto quello che è attualmente il terzo, cioè precedente alla, diciamo, durante la seconda guerra d'indipendenza, non durante la terza, quindi certo. Ma secondo te, giusto magari, no, se non so se sei riuscita, per dire la definisce una rivolta proletaria mancata, quindi quindi per dire, cioè è complicato, comunque è molto complicato. Ma ascolta, devo farti una domanda, se tu magari eri già riuscito, facendoti un'idea, studiando le tue fonti che sono sempre mirabolanti e fantastiche, ma cioè si può dire che è stata una guerra civile perché ne ha anche assunto i numeri? Cioè si parla di centinaia di migliaia, adesso magari nel 1861. Stiamo parlando di dei numeri assurdi tipo? Sia dalla parte dei briganti che dalla parte della repressione, che arriva in maniera delirante, mastodontica. Nel senso che i numeri di cui stiamo parlando, per quanto riguarda il brigantaggio, non è possibile definirli, nel senso che evidentemente, certo. Oltretutto ci sono tutta una serie di cose che adesso racconteremo che fanno capire quanto è labile la definizione, ecco, mettiamola così. Ma per quanto riguarda i soldati inviati, invece questo lo sappiamo, perché i soldati sono quelli, non è che certo. possiamo fare delle stime di massima, sono quelli effettivamente. Stiamo parlando a un certo punto, fra il 62 e il 64, di un numero attribuito alla lotta al brigantaggio di 105.000 soldati. Madonna. E sono la metà dell'esercito italiano in quel momento. Cioè, solo in meridione, solo per quel motivo. Solo in per, momento esatto. in cui stavano facendo ancora la guerra per liberare fra milioni di virgolette, alcuni territori. Quindi stiamo parlando veramente di un fenomeno massivo. Beh. Oltre al fatto che la guerra civile non sempre coinvolge tutti gli esseri umani, però effettivamente in questo caso stiamo parlando veramente di numeri massicci. Beh, se mandi tutto questo numero di persone per sconfiggere, no, effettivamente perché, per bloccare, certo. un altro totto numero di persone. Ma è oltre che il numero, è il significato. Cioè sì. tu metà del tuo esercito, mentre è in corso un'altra guerra, lo stai spostando lì perché è in corso un'altra guerra anche lì. Cioè, oppure non è che si perché va molto lontano. È molto pericoloso quello che sta capitando. Appunto, secondo cioè, quello che sono gli interessi. Per te vale almeno metà della tua preoccupazione. Interessante, un ottimo spunto di riflessione per tutte e tutti noi. Ma sai che io quando sento queste cose dette dalla solita Chiara che ci illumina sulla storia, sei io più mi fiducioso. Sento... No, io mi sento offeso. Madonna, perché, ma Guglielmo, non ti va bene niente. No, alle elementari quante cazzo di stronzate ti hanno raccontato? Ah, con quel caso lì, cioè, io ho perso speranze da tempo riguardo alla storia della scuola dell'obbligo. Io ho sempre pensato che a scuola i miei maestri ci avessero tenuto a darci un'idea anche critica della storia, per cui anche andare al liceo. È veramente complessa, però, da questo punto di vista. Cioè, ha veramente spaccato... Ma in generale lo è, perché il mito della nazione evidentemente è una questione che parecchio esprimente nella creazione di un'identità, e quindi laddove in un caso come quello italiano, ma in quasi tutti i casi, nel senso che voglio dire, tutto sommato, su questo sicuramente Stide sarebbe più abile di me nel fare dei ragionamenti sensati, però evidentemente in tutti i casi gli stati nazione hanno preso e ribaltato tutta una serie di rivendicazioni territoriali. In questo caso c'erano dei regni diversi, quindi non è che comunque non stiamo necessariamente parlando di società autogestite dagli autoctoni, cioè nel meridione c'erano comunque i Borboni che non erano esattamente autoctoni, però evidentemente dire è arrivato il re d'Italia che ha liberato la sua popolazione, o è arrivato un tizio che aveva un regno e ha preso i regni degli altri e ne ha costituito quello che adesso è il regno di tutti quanti, è molto diverso dal punto di vista di creare delle motivazioni per attaccarsi alla propria bandiera, alle proprie guerre, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente... Perché altro, l'ulteriore domanda che mi viene, a parte il fatto, quanto schifo fa la scuola italiana che non approfondisce nemmeno le contraddizioni, quindi non permette nemmeno di conoscere veramente la storia del proprio paese. L'altra cosa che mi domando è, ma allora quale cavolo di forza mentale ed immaginario è intervenuta per fare in modo che l'Italia fosse definita dalla Sicilia alle Alpi? Cioè, non so, adesso non mi ricordo quale poeta ha scritto una roba del genere, però che l'Italia dovesse essere le due Sicilie, la Calabria e la Puglia, e a salire fino alle Alpi, era una roba più o meno, adesso magari in realtà era la mia visione soggettiva di quello che mi è stato raccontato rispetto alla percezione che c'era nell'Italia del periodo, però cioè, vorrei capire come diavolo è possibile che veramente si pensasse che dovesse essere un unico paese, se la metà dell'esercito faceva la guerra a probabilmente metà della popolazione nazionale che non voleva stare nello stesso paese. Cioè è stata una guerra coloniale, allora, praticamente. Sì, vabbè, non dico cose nuove. È tutto, ovviamente tutto molto discutibile, nel senso che anche l'immagine del popolo in rivolta è parziale, nel senso che ovviamente un'aristocrazia di un certo genere aveva tutta una serie di interessi di un tipo piuttosto che di un altro, e comunque ripeto, c'è una continuità a livello territoriale nella penisola italiana. Di nuovo, lì c'erano i Borboni, quindi non c'erano esattamente gli Irpini e i Campani a gestire le proprie terre, quindi voglio dire, di fatto se uno va indietro nel tempo i confini non esistono, esistono delle continuità territoriali, questo vale sempre, cioè perché il Ticino no, certo. E il Comasco sì, perché il Sud Tirolo sì e il Tirolo no, oppure perché il Tirolo sì, anche, sì, sì. Vero. Anche banalmente, quindi ovviamente è tutto, vale tutto, insomma. Scusaci Chiara, come nostro solito cerchiamo di depistarti dalla tua flusso di conoscenze e di coscienza, ma torniamo indietro e quindi continuiamo da dove ci avevi raccontato. Siamo al periodo del grande brigantaggio, metà dell'esercito italiano fa la guerra ai fratelli. Esattamente, in realtà appunto per rispondere a una serie di questi pezzi, in realtà ha senso cercare di capire perché si crea questo fenomeno, al netto del fatto che definire questo fenomeno sia difficile, le ragioni in realtà sono piuttosto semplici, cioè, oddio, sono piuttosto semplici, sono piuttosto individuabili. Cioè, il grande brigantaggio appunto ha una connotazione politica, nel senso che esiste un enorme scontento nelle fasce più povere dell'Italia meridionale. Appunto, immagino che esistesse anche in quelle ricche, visto che i ricchi erano i Borboni ed erano stati cacciati, quindi immagino non fossero entusiasti, ma perlomeno a noi ci interessa principalmente il grande popolo e quindi quello dei poracci, diciamo, dei più poveri. Perché nasce questo scontento? Nasce per una serie di ragioni determinate dal regno, cioè dall'introduzione del regno. Nasce perché intanto lo Stato comunque non era già, diciamo, l'Italia, la penisola italica non era già messa benissimo, nel senso che aveva un fortissimo tasso di analfabetismo e una totale mancanza di infrastrutture, non era particolarmente ricca e ovviamente veniva da due guerre di indipendenza, quindi veniva da delle spese belliche piuttosto ingenti. Per i braccianti però, quindi per la popolazione rurale, dell'Italia meridionale, in particolare l'Unità d'Italia segna un ulteriore crollo, nel senso che loro precedentemente riuscivano a gestire questa situazione di, comunque di povertà, di indigenza, rispetto al fatto che il costo della vita era molto basso e che riuscivano a scambiare e a commerciare liberamente tra i loro prodotti. Quando arriva l'Unità d'Italia, Vittorio Emanuele, che si mette lì nella seggiolina davanti alla telecamera al posto di Conte per leggere il suo DPCM, che cosa dice? Dice che intanto evidentemente ci sarà una moneta unica, così come l'euro. No, non è vero, ci sarà una moneta unica, e in realtà appunto hanno un regime molto svantaggioso dal punto di vista fiscale, per risanare evidentemente tutte le spese belliche. Fra le altre, per esempio, a un certo punto viene inserita la celebre tassa sul macinato, che è una tassa che sostanzialmente, contando i giri delle macine, crea una serie di misure per cui a un certo punto il prezzo del pane schizza alle stelle. Okay. Tra le altre cose, regolamenta anche il mercato agricolo, e ovviamente questa cosa, guarda caso, pesa sulle tasse, cioè sulle tasche dei più poveri. Certo. Quindi ci sono anche soluzioni nuove in economia ultimamente, eh? Devastante, incredibile. Esattamente. Succede anche un'altra cosa che è abbastanza rilevante, nel senso che succede qui ma succede in un sacco di altri posti, è quella che in realtà poi tutto sommato in alcuni altri ambiti è alla base della cosiddetta accumulazione originaria, visto che era il compleanno di Carletto di ieri. Oh mio Dio, lo bellissimo. Che pianti. Vabbè, sostanzialmente che cosa succede? Viene varata una privatizzazione delle terre demaniali. Quindi le terre che prima erano a disposizione di tutti diventano di vecchi e nuovi proprietari terrieri, che si prendono legalmente un sacco di nuove terre. Questa cosa la fanno ovviamente promettendo la loro fedeltà al governo. Quindi, come vedi, c'erano delle persone che tutto sommato traevano del vantaggio da questa cosa. Sono i proprietari terrieri a trarne vantaggio, ovviamente non i poveracci che vengono... vengono usurpati di tutte le terre che avevano anche per gli utilizzi comuni, ma ne beneficia anche il governo, nel senso che questa cosa gli permette di avere un controllo super capillare anche su terre che 10 anni prima non erano assolutamente parte del loro controllo, non erano parte proprio del loro regno. Quindi evidentemente questa cosa banalmente giova ad entrambi i ricchi, che i poveri come al solito crepano. Anche qui cose nuove che in questo oggigiorno non esistono più. In realtà, oltre al danno alla destra, fra gli altri motivi di scontento, il nuovo governo Fabaudo istituisce il servizio militare obbligatorio di massa. Olè. Sì. Tra l'altro io dicevo, ma prima non c'era? No. C'era cioè, col governo borbonico c'era un servizio militare a sorteggio. Ah, quindi a caso gira la ruota, sì, e tu no. Però era evitabile tramite riscatto, quindi in realtà potenzialmente era evitabile. Così invece no, beccano tutti, servizio militare di massa obbligatorio, quindi tutto quanto. L'ultima ragione che magari a noi fino adesso, cioè il carrellata di orgoglio proletario, ci siamo gonfiati di orgoglio, ma in realtà magari questa ce la fa un po' scendere, però è un grosso motivo di scontento. Per tutta la questione romana il risorgimento aveva una connotazione molto anticattolica, perché ovviamente era uno degli stati ancora resistenti alla presa sabauda. Quindi sì, la popolazione rurale meridionale, che era molto credente, molto cattolica, questa cosa la vede come una minaccia, oltre che un tentativo inaccettabile di mettersi contro il papato e tutte le schiere, certo, del non ancora Vaticano, ma che adesso diremmo le schiere vaticane. Quindi cosa succede? Che praticamente grosse masse di persone di estrazione sociale umile, più gli appartenenti agli ex eserciti meridionali, più i banditi comuni e i vari briganti del periodo prima insorgono, si rivoltano, insorgono, insomma, sempre rimane complesso come definire questa cosa. Peraltro tutto questo ovviamente sostenuti dai Borboni, che in quel momento erano in esilio a Roma, ovviamente, che vedevano questa cosa come un tentativo di cacciata dei nuovi invasori, dei nuovi occupanti. Quindi, appunto, i numeri li abbiamo già anticipati prima, cioè veramente da gennaio di 61 migliaia, decine di migliaia di soldati. A Napoli, per dirne altro, tra ai 105.000 soldati che citavamo prima, a Napoli vengono mandati 50.000 soldati e vengono mandati sotto il generale Cialdini, che è una merda di uomo, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, direi. Che fondamentalmente ha carta bianca sulla repressione e fa delle cose orrende, ma tipo resti di massa, esecuzioni sommarie, intere villaggi rasi al suolo con incendi, esattamente come poi faranno i fascisti, fondamentalmente con i partigiani un centinaio scarso di anni dopo. E questo Cialdini è talmente una merda che lo schifano pure nella stampa estera e pure nel governo, che si vede costretto a sospenderlo e mette al suo posto in realtà il generale La Marmora, che non è che sia proprio una personcina per bene, però insomma questo Cialdini evoca lo sgomento più generale. Per l'appunto vediamo come man mano cresce il numero dei soldati messi a disposizione di questa lotta al brigantaggio, proprio perché in realtà hanno il terrore, e questo rispondeva anche un po' alla domanda di prima, perché hanno il terrore che questi nuclei, che sono tendenzialmente territoriali e locali, fatte da persone in questo caso sia autoctone, per quanto con tutta una serie anche di volontari esteri che non mancano mai, ma ovviamente il governo ha paura che questi si coordinino anche militarmente, quindi demoliscano lo Stato italiano. Quindi il motivo per cui agiscono subito in così grande e massiccia potenza di fuoco è proprio questa. In realtà fra le misure che poi funzionano più di tutte è stata quella del generale Pallavicini, che io conosco solo perché c'è la villa Pallavicini, onestamente, però la villa Pallavicini spacca, invece il generale Pallavicini un po' meno. Lui in realtà fa una cosa che funziona molto, che è quella di favorire la pratica del pentitismo. Primo, acceso c'era Norbi, quindi sicuramente un collegamento fra queste due cose. L'altra misura che ha funzionato, e questa volta mi spiace ma devo fare i nomi e cognomi, citando il nostro, è la legge Pica. Oh, maledetto bastardo! Shit. Attenzione! Una legge introdotta il 15 agosto del 63, che istituisce l'istituto del domicilio coatto, cioè del confino fondamentalmente. No. Quindi allontanamento preventivo dal proprio domicilio delle persone sospettate di brigantaggio o di collaborazionismo nei confronti dei briganti, quindi salta direttamente tutta la fase dei processi arbitrario meno, e direttamente spodestate e scacciate dalle proprie case in grazia alla legge Pica, su cui credo che tu debba fare delle pubbliche ammende, caro mio Lorenzo. Vero. Maledetto bastardo. Adesso mi informo. In realtà, per tornare un po' alla simpatia, visto che prima abbiamo detto che ci stava l'antipatia perché lo Stato pontificio, diciamo, stava effettivamente appoggiando le bande di briganti, in questo caso a un certo punto fondamentalmente si nega al suo appoggio, perché man mano si porta anche un po' dietro anche tutta una serie di esuli dal territorio ormai italiano meridionale di briganti, ma a un certo punto si trova a fronteggiare una diffusa criminalità anche sul territorio della Chiesa, e quindi li balza male, E peraltro introduce anch'esso misure repressive varie, grosse taglie sui briganti, eccetera, eccetera. Tutto questo pieno di gioia e fantasia finisce fra il 69 e il 70, quando vengono smobilitati poi anche le zone militari del buon Vittorio Emanuele, e viene sancita di fatto la fine del brigantaggio, mettiamola così. Madonna. Sto leggendo sulla legge Pica, è agghiacciante. Quasi un decennio di grande brigantaggio. Un decennio fondamentalmente, posto che poi in realtà ovviamente non finisce certo. Dopo il fenomeno, prosegue in realtà principalmente tornando un po' alle origini un po' più bandite, un po' meno briganti, nella divisione politico-non politico, ecco, mettiamola così, e finisce, diciamo, prosegue fino agli inizi del Novecento, poi quelli dopo potenzialmente si chiamano ancora briganti, potenzialmente si chiamano banditi, a seconda ovviamente tutto delle definizioni, alcuni sono anche poco simpatici, nel senso che un bandito barra brigante, a seconda delle definizioni, partecipa anche alla strage del Portello delle Ginestre, quindi insomma non esattamente. I nostri amici. Ma invece scusami, sono sicuro che l'avrei sicuramente incrociato l'argomento mentre ti informavi, ma quindi i briganti diventano poi mafiosi, andranghetisti, camorristi? Cioè c'è una relazione di questo tipo, come di eredità, di movimento, di concezione di base? No, nel senso che non diventano mai, è sbagliata dire questa cosa, nel senso che non diventano mai un gruppo, come dire, omogeneo. Quindi in realtà fin dal principio rimangono quelli, mettiamola così, nel senso che fin dal principio il brigantaggio post-unitario è definito così, nel senso che il fenomeno di quei 10 anni è definito così, ma in realtà ci sono dentro appunto dei banditi precedenti, quindi che non hanno niente a che vedere con questioni politiche, cioè della gente che arriva anche dalla, diciamo, non necessariamente dalla classe rurale, posto che ovviamente di mercenari che arrivavano dalla plebe ce n'erano già prima, quindi ovviamente la questione sociale è solo parziale nel definire la questione. Ci sono i legittimisti, quindi ci sono tutti i filoborbonici. Ci sono anche dei volontari, ripeto, ci sono anche dei volontari esteri filoborbonici. Quindi in realtà non diventa mai un gruppo omogeneo per cui si può dire che quelli lì poi diventano delle altre cose. Diciamo che fra i pochi che rimangono, ne rimangono alcuni più legati ad alcune questioni, altri molti dei briganti arrivavano da eserciti precedenti, alcuni erano disertori, ma nel senso alcuni non c'erano mai andati, altri c'erano andati ed avevano disertato, altri erano dell'esercito borbonico che semplicemente non esisteva più, o dell'esercito delle Due Sicilie, insomma. Quindi cioè, non si può dire che la mafia, appunto, le organizzazioni criminali che poi si sono evolute nel corso del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale? La mafia ha pescato quello che si può dire sicuramente è che la mafia ha pescato ed è stata costituita sotto alcuni punti di vista da gente precedentemente aderente alla delinquenza, che sapeva fare quello che serviva a fare, anche la questione, voglio dire, la mafia come mafia, secondo tutta una serie di visioni che secondo me sono anche più che sposabili, è un fenomeno che sotto alcuni punti di vista prefascista, nel senso che è composto da persone che erano fondamentalmente mandate a fare la sicurezza dei grossi proprietari latifondisti, che poi si innamorano, diciamo, e sfruttano il potere conseguito anche nel silenzio dei grandi latifondisti. Quindi tutto sommato è vero anche il contrario, cioè queste qui sono tutte persone, sono per lo più persone che si trovano scontente proprio perché i latifondisti avevano preso tutta una serie di territori, quindi in realtà potenzialmente è vero anche il contrario. Sicuramente è vero che all'interno del fenomeno del brigantaggio, che era un fenomeno molto diffuso, c'erano tante persone diverse, non era un'organizzazione politica, quindi potenzialmente c'erano dentro anche delle persone che nel corso del tempo faranno delle scelte diverse. Certo. No, beh, comunque che tempi, se ci pensi che adesso tempi. Che tempi. Tra l'altro, oltretutto, ovviamente, appunto, poi all'interno dei briganti ci sono persone diverse, quindi sono dei noti, diciamo, non necessariamente dei più noti, ma per esempio uno dei briganti abbastanza noti, visto che si citava, quando parlavamo di questa cosa prima io e Guglielmo, si citava Cerignola. Già. È la patria che ha dato i natali a questo Nicola Morra, che è un'altra figura che viene diciamo abbastanza ben voluta poi dalla cosa, diciamo, dalla cultura popolare locale, nel senso che uno che nasce da famiglia benestante, che viene imprigionato dai Borboni per un caso di omicidio, insomma, discusso o meno rispetto alla legittima difesa oppure no, comunque tant'è, viene imprigionato per un caso di omicidio, in carcere viene a contatto con le storie, le condizioni dei più poveri e fondamentalmente una volta uscito si dedica a rapina e brigantaggio contro i più ricchi e destinando tutto quello che becca ai poveri, quindi esiste anche del, diciamo, non è necessariamente solo anti non è necessariamente solo anti-italiano, non è necessariamente solo brigantaggio sociale, banditismo sociale, è tutto un ibrido, nel senso che è fatto di persone molto diverse. Certo, un fenomeno molto ampio e complesso. Beh, molto molto interessante che questa volta molto. Siamo partiti da una cosa così, ci è venuta un'idiozia del momento, ci si è aperto un mondo fantastico. Questo perché noi siamo degli idioti fantastici, mentre Chiara è una persona seria che riesce a trovare delle informazioni reali e basate su fatti realmente accaduti. Ma meno male che c'è Chiara. Ma veramente, grazie mille Chiara, che questa volta ci ha illuminato la via. Ah, meno male, guarda. Davvero, davvero. No, davvero, cazzo, io tutte queste cose qua non le sapevo. È molto interessante questa roba dell'unità d'Italia, della questione meridionale. Una delle parti più complesse di tutto questo è stato pensare alla canzone. Ma allora a questo punto... Per quanto fosse ovvio sarebbe stata una dedica spontanea al mio re, no, già noto come Sid Elmo. Certo, re di tutti gli elmi. Re di tutti gli elmi. E io sono suo suddito, forse più di tutti gli altri. Timore sarebbe stata la versione più facile, ma esatto. Sinceramente mi stava anche un po' addosso. Giustissimo. Pensare a dove arrivare, ho sentito tutta una serie di tracce addirittura, che effettivamente ce ne parecchie, ma siccome sono tutte tamburelli e oggi non c'ho veramente voglia di tamburelli. Dove sei arrivato? A un certo punto ho rivirato per dire che briganti balza e quindi ho rivirato sul banditismo e quindi nello specifico quella che vi proporrò è banditi nella sala. Grande pezzo di Fabiano Detto Inoki con gli assalti frontali. Io credo che ce l'abbiamo anche nella nostra libreria. Il nostro presidente Esa Franchi Prezzo. Ah, mica c'è anche Esa, è vero, sì. Madonna, sono un Annaggia, non hanno i titoli. Potentissimo. Potentissimo. Secondo me c'è anche nel nostro potente. C'è, ma sono senza titolo perché vanno rinominate, quindi mi dice track 1 e 13. Cioè, è tutto banditi, c'è tutto il disco. Ti ricordi che numero track è? No. Secondo me era la prima. No. Aspetta, se volete se è la prima, si parte subito, perché era la 1 o la 3? So perché c'è questo ricordo stupido. Andiamo a braccio e vediamo un po' se è la prima. Aspetta, se lo dico subito. Che il beat è inconfondibile. No, è la numero 2. Yeah. No, non è vero. Aspettate, non lo so. Raga, non lo so. No, non sto facendo niente. Non è questa? Ok, proviamo. Faccio zona rossa, improvvisa. Proviamo tutte le cose finché non la troviamo. Perché no? Perché il numero 2 dell'album Banditi è Banditi, ma Banditi nella sala. Scusami, non è quella? No, questa è il numero 2? Non devo provare la numero 2? Prova la è da profondo rosso. Che è un altro disco. No. Cioè tu dici che è da profondo rosso la canzone Banditi? Vediamo. Sì, no, è quello con la copertina con il lupo. Con il lupo rosso, esatto. Intanto la piazza qua. Ce l'ha di anni sta canzone. Ed è sempre la traccia 2, tra l'altro. Yeah, quindi loro mettevo, abbiamo capito che scelta editoriale gli assati frontali mettono una traccia più potente del disco, la traccia 2. Eh no, vedi, qui mi dà solo il disco Banditi. No. L'abbiamo trovata comunque. Se ce la scondiamo anche da qua. L'abbiamo trovata. Ce la facciamo, sta scaricando. Vabbè, Chiara che dire? Anche sta volta. Ma che cosa fate? No, nel senso che stiamo scaricando la malta per il tetto. Esatto. Sì. Noi rispettiamo il diritto d'autore. Certo. Non rubereste mai un'auto? Mai. No. Non manderemo mai a lavorare qualcuno in fonderia senza la mascherina o quando c'è in giro una pandemia mondiale. No, mai. Assolutamente no. Quello il brano è pronto. Quello è grave. Va bene, carissimi, io carissima, come al solito, brigatista Chiara. L'ho detto. Brigatista. Ce l'avevi da un'ora. Beh, comunque avrei temuto ben di più brigadiere, ripeto. Chiedo scusa, Lorenzo, puoi cercare su YouTube anche quest'altra traccia che manderemo a un certo punto? Vai. È una traccia un po' pesante, ma è patrimonio storico di questo paese, quindi non vedo perché si debba nascondere. Puoi cercare Brigate Rosse Radio Popolare? Certo. Un audio che fa venire la pelle d'oca. Non so se l'hai mai sentito, Lorenzo. Sì. Ma perché? Perché lo vogliamo mandare? Lo mandiamo dopo, così per ricordarci che le brigate, dopo tutto, sono anche quello. È un pezzo di questo, è una città da quella. Quando la metterete, vi capiremo, renderete conto di perché. Ma perché? Senti, vogliamo ascoltarci questo minuto e mezzo di puro lotta politica, così al volo, tu ancora con noi? O vuoi aspettare? Come ditemi voi. Allora, non so se lo sentirò. Sta sentendo, esatto, che non vedo che sia particolarmente. Niente, basta. Allora noi mandiamo questi ultimi due traccioni. Allora, niente, basta. Grazie Chiara. Ciao amici. Ciao Chiara. Ciao. Ci sentiremo. Ciao. Ciao cari. Ciao. Ragazzi, quest'audio è fantastico. Secondo me c'è anche una lezione di scienze politiche in questo. Ci prepariamo e lo mandiamo. Vai. Sia quel demente controrivoluzionario che se ne sta al microfono, che non si azzardi più a dare alito e spazio alla rivendicazione falsa di Genova. Della nostra colonna Francesco Berardi, perché altrimenti se ne assume ogni responsabilità prima di tutto di fronte alla nostra organizzazione. È chiaro che di fronte alle lotte che ci saranno nel settembre i padroni ci danno una risposta, sono anni che lo fanno e non l'avete mai capito. Comunque sia ben chiaro che l'aspetta di fare il bastardo al telefono, Dio cane. Scusa, non ho capito chi parla, chi siete? Le Brigate Rosse, colonna Walter Alasia. Ma perché, scusa, è stata fatta una telefonata a Genova o no? Senti un po', tu sai benissimo che per un pilla si mette al telefono, ci vuole poco, però porco Giuda, voi ci state da una vita a sentire la politica, no, Dio cane, da quanti quali facciamo bastardate di questo tipo, al di fuori di ogni concessione politica o no? Sì, ma mi è sembrato di dire, abbiamo detto che la sensazione che noi avevamo era che... Sì, ho capito quello che tu hai detto, però porco Giuda, l'hai detto dopo 10 minuti che eri, come si chiama, che hai dato una notizia dicendo che certo, non facciamo ancora queste cose, anche se parlare di mucche o quelle cose che hai detto. Però guarda, che l'impressione che si è avuto all'inizio è stata di una... Cioè, non vanno fatte queste cose, porco Giuda, perché già dobbiamo rapportarci con migliaia di giornali che girano e dicono tante di quelle cazzate che invece basterebbero. Questa volta una telefonata ufficiale che smentisce quella di Genova. Una telefonata ufficiale, comunque, ditelo. C'è la colonna Walter Alasia che smentisce la telefonata di Genova. Certo, comunque dito le Brigate Rosse, guarda che non ci vuole molta fantasia, Ciao. Beh ragazzi, momenti altissimi. Che tempi quando le Brigate Rosse ti chiamavano in diretta per dirti che dovevi smettere di dire minchiate. Momenti altissimi. No, al massimo ci telefona Maccio per dire che è pronto da mangiare. Quindi è pronto da mangiare, assalti frontali, poi pensiamo alle brigate. Zona rossa, penso una delle puntate più scoppiettanti da quando abbiamo cominciato. Minchia, tutta la vita. Cioè, sono veramente. Sempre scoppiettanti. Sono sempre scoppiettanti, oggi ho scoppiato un po' di più. Bello. Grazie a tutti e tutte e niente, auto DJ fino a domani mattina. Io domani salterò, bigerò alla il collettivo grande. Tutte. Ci le ribelli. Le ribelli, esatto, streammate anche sul canale di esattamente, Una di Meno. Esattamente. Siamo ovunque. Venerdì, che cazzo c'è venerdì? Venerdì abbiamo switchato 20 diversi. Oh. E domani c'è anche il buon Cesa.